I have been fed, that's a fact. I have been fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, figgins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org/PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. Italian Podcast Network presenta Fatality. Dietrologia videoludica, il lato B dell'industria del videogioco. Carissimi ascoltatori di Dietrologia Videoludica, bentornati a questa puntata bisettimanale di Dietrologia Videoludica. L'avevamo detto e siamo diventati finalmente bisettimanali. Per quanto tempo ancora non lo sappiamo, ma questa è la decisione che abbiamo preso. Questa è la puntata Deep Impact, che è stata ideata e sarà anche condotta da Stefano Biggio. Ehi, ciao amici. Mamma mia, oh, mi fai quasi paura, mi fa. Sì, bene sì. Ti fa paura a tempo? Ti ho messo solo 5 minuti da solo lì dentro. Dopo la mia fantastica imitazione di Batman, vi ringrazio della presentazione. A me sembrava maniaco. Ah, beh, è un po' la stessa cosa, diciamo. Beh, sì, dai, è un po' un Batman, un po' maniaco, no? Ma assieme a me, Simone Pizzi, con lui fisicamente, mentre io sono in difterite a Zurigo. Altrove. Ci sono il suo companion di mille adventures, Marco Gualdi. Grazie, ma sono più famiglio più che altro. No, tipo preferivo compagno. Il compagno. Mob. No, anche esatto. La sorellina comunque. Anche, è un mobelite, Marco Gualdi, ve lo posso dire, l'ho conosciuto di persona, è un mobelite viola, di quelli di World of Warcraft, quelli grossi. Veramente hai conosciuto tutti di persona, non... Tutti quanti noi hai conosciuto. Sì, ma non tutti sono dei mobelite. Esatto, io l'ho conosciuto in senso biblico di persona, però. Con me hai pure dormito assieme. Ho anche dormito assieme. Ma diciamo sempre che comunque non l'abbiamo ancora presentato, ma tanto esatto, qui. Esatto, ma l'avete sentito. Oramai è random, ci abbiamo il padrone di casa, Peppe Soso. Buon salve a tutti, ragazzi. E ultimo, ma non ultimo, il piccolo, indimenticato e indimenticabile, Carlo Brighena. Grazie, sono l'ultima ruota del Carlo, io. Giustamente. L'ultima ruota del Carlo e c'ha sempre la voce che è sempre di meno. Ma... Purtroppo ho la stanchezza inside. Dovete cercare di capire, purtroppo. Sentirete solo del silenzio, tra poco quali saranno le parti dove Carlo parla. Però beh, dai, è da un po' che non vengo, mi sono mancato. Un pezzo di carta e lo fai con la carta. E all'affermazione, da un po' che non vengo, mi viene da dire, mi dispiace. Esatto. Mi dispiace moltissimo. In senso fisico, però, dice. Esatto. Quello, detto questo, io direi che possiamo andare con le nostre classiche, i nostri classici riferimenti, che sono www.dietrologiavideoludica.it, è il nostro sito. Dietrologia Videoludica lo trovate sulla pagina Facebook e Google Plus, lo cercate anche su iTunes, dove trovate questo fantastico podcast audio, e su YouTube, dove ci sono chiaramente anche i nostri video, anche se è un bel pezzo che siamo fermi, ce ne sono due o tre che stanno lì in cantiere, li ho mezzi montati, ma non so, in realtà non lo guarda nessuno YouTube, quindi anche un po' sti cazzi. No, in generale non lo guarda più nessuno. C'è no, YouTube, ma il nostro però. In particolare non lo guardavano più nessuno. Ma quella è una scelta artistica. L'ultimo video che abbiamo caricato, tanta visualizzazione, e c'era uno che ci ha scritto: ma cazzo, come può essere? Voi spaccate, com'è che avete così poche visualizzazioni? E allora abbiamo detto: ci stai prendendo per il culo. Sì, esatto. E allora basta, non allora, facciamo basta. Niente. Esatto. E c'è anche il Twitter, che lasciamo sempre onore a colui che l'ha creato questo Twitter. Ecco, che adesso non mi ricordo, adesso sono indeciso. Perché l'ultimo episodio, cioè il penultimo, mi era accaduto una certezza. E non è più Dietrologia Videoludo. Allora, in realtà sarebbe dietrologia videoludo ludente, però se uno mi vuole ci vuole citare, è dietrologia vide. Ecco, voi comunque cercate dietrologia videoludica su Twitter che prendete sicuro. Bravo, forse è meglio, sì, probabilmente. Sì, poi, sì, se proprio ci tenete a scrivere delle email, non spingete, allora dovete mandarle piano queste email, perché se le mandate tutte assieme come al solito poi non ci arriva più niente. L'email è dietrologiavideoludica@gmail.com. E ricordatevi, mandatele piano, perché il server non riesce a reggere no, tutte non quelle le che regge tutte le mail che mandate tutte insieme. Infatti oggi che siamo al 14 appunto, lo diciamo perché che quindi è la due settimane fa rispetto a quando, anzi sì, due settimane fa rispetto a quando sentite questo episodio, il server di PN è stato quasi tutto il giorno offline. Ma quello perché è procedurale. È procedurale, vedo esatto. Vedo Burigana che mi controlla gli strumenti in modo procedurale, mi hai fatto una preoccupazione. Sì, no? Volevo vedere se registrava in modo logaritmico. Logaritmico e lo sta facendo? Sì, sì. Ah già, non abbiamo neanche, vedi, non ho neanche fatto la cosa. Va bene, a questo punto, dato che ci siamo tutti, io direi che possiamo tranquillamente partire con la prima rubrica. Eccessi anticipati. Perfetto, non abbiamo detto il nome della rubrica perché ci diciamo sempre, dicevamo questa sera a cena con Carlo Burigana, io ho fatto gli stacchetti, grazie Carlo, prego, hai fatto questi fantastici stacchetti. Sì, grazie. E negli stacchetti le rubriche... Le veline! No, dico, negli stacchetti in realtà poi le rubriche sono citate, quindi perché lanciare la rubrica se poi la rubrica è poi già citata allo stacchetto? Infatti io proverei di lanciare lo stacchetto. Lo stacchetto. Andiamo adesso allo stacchetto. Lo stacchetto, quindi siamo praticamente nella rubrica eccessi anticipati e siccome questa cosa non era, esatto, non era indicata... Non spiegaci. E che cazzo, fatemi parlare però, perché se no poi mi innervosisco. Pizzi, ti stiamo perdendo, È un po' come quando stavamo al ristorante, thailandese, insomma, va bene. Allora, eccessi anticipati, dice, vabbè, non era in scaletta, di che parliamo? Perché nessuno di noi ha preparato un eccesso anticipato e invece c'è. E l'eccesso anticipato di questa settimana è, lo vuoi dire tu, Carlo? Esatto. Vai. È il nostro carissimo amico Arnaud che esce in una, diciamo, in una versione beta, in una pre-alpha che costa 70 euro e 98, esatto. Mi sembra una cosa del genere, che ha rilasciato Ubisoft così il 13 di questo mese. Se volete comprate questo accesso anticipato, sì, che è una cosa che c'ha giusto qualche bug, ma niente di che, insomma in realtà promette bene, no? Perché sì, è uscito, l'ho visto anche io, non ho ancora giocato perché il prezzo mi è sembrato un po' eccessivo, esatto, però io lo giocherò più avanti quando esce quello definitivo, almeno in beta giustamente, almeno quando dici il personaggio non cade nello scenario, sotto il cielo. A me succede spesso quando ho giocato a The Forest, no, neanche a The Forest, A Risen 2, ti ricordi che ogni tanto si cadeva nello scenario? A Risen 2? A Risen, sì. Oppure quando facevi il no clip, non so, qui si fanno dei gesti che non capisco. Sono procedurali, tranquillo, tutto bene. Sei procedurale stasera, Burigana. Su The Forest, per esempio, non si cadeva nel sottosuolo, ma neanche in The Dark Knight, The Long Dark, l'ultimo che ho giocato, non mi sembrava che ci fosse Long Dark, infatti che era un Big Bamboo. Esatto. Infatti, non c'era protagonista che cadeva nel... Ora io non vorrei perdere troppo. Invece ci sta la gente bloccata. Anche vedo la gente. No, però bloccata. Ragazzi, i bug quelli con le personaggi senza faccia, secondo me sono epici. Io vorrei tanto giocare a Assassin's Creed per vedere solo per quello. I personaggi senza le facce. Anzi, dovremmo telefonare a Ubisoft dicendo nulla pacciare, quella cosa sì, noi no, è bellissimo. Perché non abbiamo citato il gioco. Cioè, tutti l'abbiamo capito che si tratta del nuovo Unity. Che uscirà, penso, che non è il motore grafico, no, uscirà in versione detail, terzo semestre dell'anno prossimo, credo, più o meno a Natale l'anno prossimo. C'è anche una versione bug of the year, versione release candidate, quando sarà completato il ciclo di DLC, no? Comunque loro stanno ormai non a correggere bug ma a sviluppare per rimettere un non po' ho capito quello che hai detto, ma so che è procedurale per rimettere un po' di ordine. questa questione, quindi stiamo parlando chiaramente scherzando in maniera burlesca, avete capito, insomma, voglio dire, è burlesca. Stiamo parlando di Assassin's Creed Unity, che come avete visto insomma in tanti video su Facebook e su YouTube è uscito Biggio insomma con una caretta di bug quasi indecorosa, insomma, e anche diciamo. La stessa Ubisoft non ha dato le copie review ai recensori, giornalista, alla stampa, ai media, proprio per evitare che l'ha fatti, l'ha mandato a Parigi, non ha servito a niente, l'ha mandato, ti manda a Parigi, vabbè, ma quella la versione truccata è una normale, un sistema normale procedurale, ma cioè, vogliamo ricordare qual è il titolo, insomma, Unity, il sottotitolo di Assassin's Creed Unity, no, che è Legalité, Fraternité, Mortacci de te, Mortacci de te. No, ma la cosa bella è che in effetti, se avete ascoltato lo speciale scorso sulla Games Week, il buon Cesare, insomma, che l'aveva provato chiaramente a Milano, ha detto che questo non era un gioco pronto per uscire. Allora noi pensavamo, vabbè, ma quello che hanno mandato lì sarà sicuramente una demo vecchia, no? E invece, a quanto pare, Biggio, tu esprimi consideration, per favore. Io ho visto diversi filmati, dato che io non sono un grande appassionato, ma lo è mio fratello, quindi io indirettamente ho visto giocati praticamente tutti gli Assassin's Creed. Quello che ho giocato io sono stati forse i primi tre, diciamo, della serie, poi mi sono sinceramente frantumato le gonadi. Detto ciò, ho visto cosa le isole sembra... gonadi, no? Sì, esatto. Gonan il barbaro anche. Anche Onan il barbaro. Comunque, fatto sta che ho visto diverse cose. All'inizio ho detto, bah, appunto, anch'io pensavo fossero immagini fake o cose o errori che potevano capitare. Oppure un hacking, così, ho detto, bah, sei di solito un po' di sfiga, può capitare, dai. No, a quanto pare è una cosa abbastanza diffusa. Tanto che addirittura ho visto un filmato dove sono degli NPC che improvvisamente interrompono una cutscene per entrare e urlare dei cazzi, cioè, sì, è una cosa bellissima, una quella neanche Mass Effect negli anni d'oro è riuscita a fare. No, Mass Effect a confronto a me piace, cioè, quella che è tipo il momento survival horror, sì, in cui tu stai camminando e poi improvvisamente che ti sputa alle spalle il fantasma, sì. Il fantasma bloccato, ovviamente. No, sembra un po' anche gente che sa fare che compenetra le finestre e poi rientra nel palazzo, insomma, cose, no, sono cose un po' playable teaser, no, anche un dobbiamo fare queste cose, l'altro sì, perché è una cosa di vitale importanza, riuscire dentro, senti questi cioè quello che tenta di passare, no, che fa monsieur, e quello vedo davanti a lui che fa che cazzo stiamo lavorando qui. No, poi è bellissimo, ma la cosa più assurda è che loro nel frattempo, cioè, recitano con una nonchalance proprio assurda, proprio incredibile. Mentre quello fa tutto. Tu non lo sapevi che nella Francia c'avevano già la telecinesi ed erano in grado di spostare con la forza del pensiero i libri. È bellissimo. Anche quello. Le spade. La distanza dalla mano. Fantastico. No, comunque. Vabbè, insomma, doveva. Questa cosa è un gioco che nasce rotto e che spero, come. E ci vuoi ancora più rotto. No, ma lo sai Stefano, la cosa che mi preoccupa seriamente è che alcuni difetti, qualche glitch all'interno dei giochi, soprattutto oggi, ci possono anche stare. Quando il gioco è ferocemente buggato, secondo me non lo recuperi neanche. È quello che stavo facendo notare io. Scusa, cioè, come lo vai a pecciare? Fai con il tuo pensiero procedurale. No, il pensiero procedurale è questo, nel senso, come lo recuperi, appunto, come diceva una cosa. Come Fallout è stato così, quando non l'hanno mai recuperato. No? Ma cioè, poi, tra l'altro, a guardare i video ci sono così tante situazioni di glitch, di bug, di cose. Che non è una cosa che sai che è ritornante, che sai che in quel punto succede quella cosa, è una cosa così randomica, che lì veramente sembra che è venuto a mancare proprio il periodo di debug del gioco per farlo uscire, perché lì c'è quanto mondo procedurale, esatto, succede. E poi vabbè, magari se mandi una mail a Ubisoft tutto il mondo è procedurale, sì. No, dice, guarda, purtroppo è logaritmico. No, ma il problema è che se fra 6 mesi esce un nuovo Assassin's Creed, la gente se lo compra, è quello il problema. Ma loro hanno detto che la prossima volta, dice, il prossimo Assassin's Creed uscirà tra un po' più di tempo, perché vogliamo lavorarci un po' di più. Vogliamo metterci un po' più di merda. Grazie al cazzo. No, ma sai, usare magari dei beta test. Ovviamente nel frattempo voi che siete stati infinocchiati per no, no, ma il beta testing lo stiamo facendo ora noi con questo accesso anticipato, no? Esatto. Quindi, va bene, dai ragazzi, io penso che abbiamo già dedicato anche troppo tempo a questa cosa, poi torneremo a parlarne chiaramente, perché insomma non è che si può soprassedere su un gioco come Unity. Chiaramente chi farà il primo di noi, che farà il primo beta test, esatto, che c'è già il bambino Carlo che ha alzato la mano, e quindi un primo avvio lo farà praticamente volentieri. A questo punto io direi, visto e considerato che le rubriche, il resto delle rubriche poi stanno subito dopo, entriamo nel vivo di questa trasmissione lanciando Osservatorio Dietro Ludico. Allora, qualcuno però recentemente, un ascoltatore mi ha detto, anzi non un ascoltatore, me l'ha detto Alex Raccuglia, quindi lo diciamo, salutiamolo. Salutiamo, anche. Grande. Grazie ad Alex Raccuglia, tra l'altro il nostro documentario sta continuando la sua tappa, perché sapete siamo stati a Milano e abbiamo intervistato Matteo Bittanti. Un saluto speciale agli amici di Italian Podcast Network da Matteo Bittanti. È stata una cosa veramente emozionante, molto particolare. Abbiamo fatto anche un bel lavoro direttamente in studio, quindi praticamente la cosa è venuta anche estremamente bene. Detto questo, Alex mi ha detto: sapete, però a me di ideologia videoludica mi manca imparare l'italiano. Cioè, nel senso, il fatto che Biggio leggesse l'introduzione è un po'. Però io ho detto anche, spiegando insomma al buon Alex Raccuglia, che tra intro, imparare l'italiano e i voti partiva mezz'ora senza aver detto un cazzo, insomma, diciamo così. Quindi è stata una scelta procedurale. Però in questo caso abbiamo anche detto ad Alex che se lui vuole, noi ci mettiamo d'accordo con te, gli diamo il tuo numero di telefono, così li puoi. Lui te le legge, no, di notte, esatto. Puoi leggere qualcosa. Come si faceva una volta, c'era l'elenco del telefono, le fiabe della notte, sì, tu sì, telefonavi. C'era il Biggio della notte. 1000 cene, non c'è problema. 2000 lire al secondo. Esatto. Quindi, vabbè, Biggio, allora, questa è una puntata che hai pensato tu 3 anni e mezzo fa circa. Più o meno, una puntata quando questa trasmissione ancora non esisteva. Quando non esisteva, non ci conoscevamo. Infatti, la scaletta è quella. 3 anni e mezzo fa. E si intitola Deep Impact. Perché si intitola? Perché non è un Deep film Impact. Porno, esatto. Non è neanche un film di asteroidi. Asteroidi, sì. Salutiamo anche la Mission Rosetta, tra l'altro. Quindi salutiamo gli asteroidi. Benché la copertina di questo podcast lo potrebbe lasciar presumere, ma in realtà non sapevamo cosa metterci. No, beh, però siamo sul pezzo. Impatto profondo, inteso come impatto profondo. L'impatto profondo in questo caso è quello dei videogiochi sulle nostre vite, quindi in che maniera i suddetti videogiochi hanno influenzato le nostre vite, quindi in maniera un po' meta-anfetaminica, diciamo. Anche un po' anche logaritmica, soprattutto metanfetamina anche, quello ho detto io, è procedurale pure, cioè, ma anche cos'era la logaritmica, quella più importante, quindi io mi sono chiesto più volte per quanto riguardava il sottoscritto, ma raramente l'ho chiesto ad altre persone, insomma, perché sempre appassionato, perché lui si fa domande da solo, visto che tanto so che con voi sfondo una porta aperta, non mi vergogno più di niente, capito? E quindi ho deciso soprattutto dopo la zuppa dei occhi, la zuppa dei occhi, quella è stato un momento di unione dove tutti siamo, c'è stata solidarietà, diciamo, sì, esatto, tutti si sono girati all'altra parte, molta magnità zuppa del merda. Io però vorrei fare, a questo punto vorrei fare una piccola digressione. Ma te la sei mangiata te poi la zuppa del merda? Sì, ovviamente, esatto, sì, certo, era buona, era mangiata, allora il ristorante thailandese secondo me è una cosa che lo capisci, o non è per tutti purtroppo, infatti. Però io vi invito a ascoltare la disamina di Simone su SoundCloud, cercate Simone Pizzi su SoundCloud e cercate Thai non mi rivedrai mai, una cosa del genere, e fatevi due risate perché veramente vale la pena tanto. Potrei metterlo alla coda di questa trasmissione, lo mettiamo alla coda di questa trasmissione perché secondo me vale la pena, quello è proprio il punto di vista personale di Simone sul ristorante thailandese. Quindi, esatto. Dopo che ricordo cosa lui aveva detto prima di andare al ristorante thailandese, io nella mia vita ho detto pochissime volte non mi piace, esatto, è vero. Quindi, questa è stata una di quelle. siamo qui collegati con il giovane Stefano Biggio, che ha esperienza sia di lavoro nel mondo culinario che a livello internazionale, chiaramente. Nel mondo culo. Sì, culo sì, in sì. aria. Esatto, okay. Soprattutto il lavoro col culo in aria. Quindi abbiamo fatto vedere dei video dove noi siamo stati in questo ristorante Thai, dove sono successe delle cose strane. Sì, allora, non è concepibile ordinare 14 cose per 10 persone in primis. La zuppa di occhi è molto buona, soprattutto per Carlo Burigana, che salutiamo. Che salutiamo. Che purtroppo abbiamo perso durante il tragitto. Proprio a causa della zuppa di occhi ce lo siamo giocato. Poi, esatto, purtroppo io avrei ordinato anche il cervello di scimmia, ma mi hanno detto che dovevo prenotare un giorno prima per quello. Esatto. Tendono a scappare le scimmie. Poi purtroppo non c'erano Lady Boys, nonostante noi abbiamo chiesto. Ma parliamo della qualità dei piatti, che la qualità dei piatti nella consistenza e nel sapore erano tutti uguali. Cioè, allora c'è del latte di cocco che rende tutto dolce, disgustoso. Volevo aggiungere un piatto particolare e patè di cormorano e soprattutto un omogenizzato al canguro. No, e non dimenticare l'insalata di frutta. Di frutta, che è frutta con sotto l'insalata, con sopra frutta. Allora. Poi, no, ecco, ricordiamo, no, la particolarità dei piatti non solo che sono tutti uguali, che poi in base al piatto è semplicemente lo stesso piatto girato sotto sopra, cioè gli spostano la posizione degli ingredienti. Hai preso l'84A? Dici sì. No, scusa, era il B. Allora questo è quello dopo, ti gira il piatto sotto sopra, fatto. E poi se tu dici hai preso il lui viene e ti dice hai preso il 48, tu gli dici no, sì l'hai preso e te lo dà. Poi torna, ti chiede scusa perché ti ha portato il 48, tu dici sì, ma ti ho detto di lasciarlo qua, lasciami in pace a mangiare. No, niente, non si davano pace, ci davano, ma diciamo che questi piatti erano primo, secondo e dessert anche. Esatto, grazie al latte di cocco, al fatesco al latte di cocco e alla quantità di occhi notevole che c'era in ogni piatto, questo ci permetteva di avere un pasto completo. E se voleva nutriente, se volevamo cambiare questo pasto, tra l'altro bastava girarlo, quindi cioè sopra sotto sotto sopra. Che cosa hai preso tu? Io giravo il piatto e dicevo un'altra cosa. Esatto, io alla fine ho preso una cotoletta alla milanese, tipicamente thailandese, fa anche rima. Che fa, rientriamo? Sì. Stiamo ripassando davanti. Noi siamo quelli di vabbè, saluta il nostro pubblico. Salutare. Ciao pubblico. Ciao pubblico. Ciao. Ma sei stato, hai detto anche che era buona la zuppa di occhi, poi sei stato male 2 settimane, però questo no, io quindi sapete anche che se dovete portare fuori a cena o a pranzo Simone Bizzi, non mi portate al Thai, al thailandese, offritemi un Groupon al ristorante thailandese se volete risparmiare. Ma, no però ci riproverò comunque, vi richiamo all'ordine, giusto, andiamo anche se dovrebbe essere compito del sì lo so, ma mi piaceva rimanere, no, però i noodles con la menta al ristorante thailandese, dato che ce l'avevo anche vicino, quindi era proprio, io l'ho vissuto in maniera, come dire, molto pregnante. No, perché lui era proprio diretto. Lì con me, quindi ha assistito. Io ero con lui, e lo scocciavo. No, il contrario, io infastidivo Pizzi. Sì, era quella perché la cosa. Più vedeva che mi nervosivo e più mi cagava il cazzo. Sì, diciamo. Esatto. E mentre Michele Salvezza, che saluto, rideva. Vabbè, ma Michele con me è così sempre, quindi maledetto Michele Salvezza. Comunque andiamo al perché i videogiochi hanno rovinato le nostre vite. Esatto, io chiedevo. Qui mi cito anzi, credo, se non ricordo più chi sono scritto io, sono scritto l'ubriaco, non lo so. Ma alla fine, a parte pigiare i tasti, sti benedetti videogiochi ci hanno dato qualcosa? Beh, partiamo da Giuseppe. C'hanno. È rimasto qualcosa che ha influenzato più o meno profondamente le nostre vite, aggiungo, riguardo ai videogiochi, le esperienze videoludiche in generale. Questo è un po' retrocastiana come domanda, ma in generale anche nell'ultimo periodo, tolte ovviamente, ad esempio, riassumere in la vita è un videogioco o i videogiochi aiutano a vivere meglio? Sì, la seconda, giochi per vivere o vivi per giocare? Ma io partirei comunque da Giuseppe a sto sì, punto, sì, vai. Assolutamente. Ma sì, cosa ti ha lasciato? Cosa ti hanno dato i videogiochi? Ma più che mi ha dato, hanno in realtà. Ti hanno tolto. Mi hanno tolto molto tempo. Molti soldi. Sì, tempo e soldi che avrei potuto forse dedicare meglio a. No, meglio no, ma avrei potuto certamente impiegare per fare altre cose, qualora non fossi soprattutto patito di questo. Di fatto hanno plasmato la mia vita. Ora non voglio appunto cominciare comunque a tediarvi con... Tira fuori il violino. Con le storie che ti posso dire, da Pac-Man a oggi, però... Vi sentite l'episodio di Retrocast dove c'era Peppe che ne parla, se sì, volete, esatto. Quindi... Ma di che, dei Pac-Man? No, dei Pac-Man, è la terra di un'altra serie di giochi, però magari questo poi ne parliamo dopo per alcuni momenti, ma io devo dire che per me è stato la maniera attraverso cui potevo rapportarmi con mio padre, perché sono da pioniere informatico di quegli anni, ho toccato la passione per... Dopo i primi anni comunque ma io da quando ho cominciato a giocare, poi ancora di più da quando ho avuto Stefano, ricordano, ho parlato pure in Retrocast, è stato proprio quello mio, il comodo della 1500, insomma da là mi si è comunque aperto un mondo per me. Era una passione tale, non solo perché preferivo appunto stare a casa, ed è il motivo che per cui questo hobby tuttora influisce anche sul mio aspetto fisico, no? Cioè che sono un grassone. Vabbè, io non lo sono, ma lo penso esattamente come te. Preferisco comunque un divertimento più sedentario rispetto che so ad altre attività magari più... fisiche. Al gioco del pallone, sì, ti capisco. So, ovviamente questo ha avuto anche diciamo, un certo un'influenza anche nella mia vita sociale, perché questa passione poi mi ha sempre spinto comunque a condividerla con gli altri, a parlarne quindi, con gli amichetti, fino ad arrivare a viverne quando ho collaborato pure io con tuttora con Siti, e a maggior ragione appunto. A espormi, a volere condividere tutte le mie esperienze, poi magari sì, ha anche influenzato alcune fasi particolari della mia vita, ma io comunque sono stati pochi periodi in cui li ho completamente da parte i videogiochi, proprio perché è stato diciamo l'unica mia fonte, è triste non so da dire, ma l'unica mia fonte per poter fuggire dalla grigia vita quotidiana. Mi piace. Quello insomma ognuno è il suo, c'è chi va in giro a picchiare la gente, c'è chi è pure meritevole, diciamo così, il fatto che comunque una persona comunque esponga con sincerità il proprio Sto facendo un po' coming out, oppure addirittura da videogioco, da videogiochista anonimo, ma perché sei procedurale, non è che procedurale, sì, assolutamente devi fare un colpo giù, quindi a toccare tutto tocca la mia vita, e se probabilmente in un futuro ipotetico alternativo non avessi invece nei videogiochi, probabilmente sarebbe stata solo una fase momentanea, o addirittura non ci sarei proprio attrezzato a questo. Faresti il modello per Calvin Klein, saresti il modello per Calvin Klein, cinema, leggere i fumetti, non lo so. Secondo me faresti il tassidermista. Bonsai. Marco? Io invece come passione, i singoli giochi magari poi dopo ne parleremo, però in realtà è stata più una cosa di passione, perché poi alla fine per non pensare a parte chi insulta gli altri, però quella è un'altra cosa. È scarino online, cioè, tu dici quelli online. Sì, vabbè, è sempre scarino perché tu comunque è l'idea di rifugire la realtà, perché la realtà in qualche maniera è dolorosa, vuoi dimenticare quello che ti capita nel reale, comunque il videogioco o magari vuoi fare solo distratti oppure anche loro ti permettono di fare cose che magari mi piace esplorare, vedere, mi piacciono le storie, anche io guardo film, cartoni animati. Così, infatti. Mi piacciono proprio le storie. Anche all'inizio, infatti c'è avuto un buco dai primi giochi. No, mi dispiace, c'è un buco, mi dispiace. Dai primi giochi ci Atari 800XL sono passato direttamente al PlayStation 1, mi sembra, quindi non ci sono stati Nintendo 64 e PlayStation 1, quindi in mezzo c'è stato il nulla, quindi più o meno quando hanno cominciato a venire fuori un po' di trame nei videogiochi, esatto, quindi lì mi sono cominciato a riappassionare, proprio perché mi piace comunque vedere la storia, potrei dire la stessa cosa quasi, e poi cambiato la vita che cambiato, però su quanto hanno influenzato. Ha influenzato perché già fino a che punto ti ha influenzato? Proceduralmente di arrivare a fare a riconoscere l'algoritmo. Le persone che purtroppo sono disturbate come me. Purtroppo, ecco, questi disturbati che mi accompagnano. Sì. Anche Biggio, un altro disturbato, perché lo sappiamo che sei un disturbato. Siamo tutti disturbati. Vivi in Svizzera. Infatti, non saresti una persona normale altrimenti. Esatto. E quindi stare qui, conoscere gente, fare dei podcast che non me la sapevo neanche proprio nell'antica del cervello, neanche sapevo che esistevano. Esatto, cos'è un podcast, che può dirlo? Quindi, comunque, in qualche modo ha sicuramente modificato il mio dietro le quinte. Marco, che lo conoscevo ancora poco, te va a fare un podcast? Se parla di videogiochi, sai che i videogiochi vabbè. Che devo fare? Vai, ti metti seduto e dici la tua opinione. Entusiasmo. Oh, yes. Se immagino, metti seduto e dici la tua opinione. Chissà perché non fatico a immaginarlo. Non si è più mosso, però. Seduto. Sta ancora seduto. Devo dire che DVL, soprattutto in questa ultima nuova era, insomma, deve molto al fatto che comunque lui ha preso, diciamo, ci sta dietro, sì l'ha incolonnata, diciamo, per certi versi, grazie a Dio, perché insomma sennò sarebbe una cosa, quello che volevo domandare, perché anche per vedere appunto se si tratta comunque di elementi comuni come che ha fatto, beh, non è tutti, perché lui e io e Biggio ancora ognuno pensa ci abbia. Infatti lo sto chiedendo e passo ovviamente anche per sapere al procedurale da Carlo e da te, poi Simone, se è pure appunto così, ma perché comunque a un certo punto, quando vi è scattata la molla, vi siete avvicinati ai videogiochi e soprattutto non siete più tornati indietro? Cioè, cos'è che avete visto nei videogiochi che non avete trovato in altre cose che magari facevate in contemporanea? Perché per me è stato, per esempio, appunto, siccome sono stato dall'infanzia appunto indottrinato così, e qua c'è un riferimento con questa fantastica parola, indottrinamento. Attenzione! Però, per esempio, appunto, io giocavo pure adesso con i Lego, con Big Jim, con i Master of the Universe, no? Però poi vedevo in qualche maniera che quello che mi dava, le possibilità che mi dava a quei tempi, piuttosto un Burger Time, un pacco, è un Burger King, no, pure. Sì, esatto, un Big Mac. No, non erano, però, diciamo, erano più limitate quelle dei giocattoli, cioè, perché comunque alla fine mi dovevo o inventare io di sana bianca le storie in cui muovevo i personaggi, dovevo muoverle anch'io, non le potevo muovere più di due perché tutti abbiamo due mani. Infatti, il videogioco, c'è la semplicità del fatto, esatto, che tu devi fare le storie, devi vivere le storie che già sono scritte, quindi non ti devi scegliere trovarti le regole. Secondo me c'è un altro motivo, e poi dopo ci arriviamo. Vai comunque. Vai Carlo. Intanto, ecco, dalla domanda originale alla domanda che ti ha fatto Carlo, Peppe, perché in effetti è non solo è pertinente, ma forse anche più introduttiva per certi versi. Sì, ma guarda, io credo, ecco, mo, per esempio, che Giuseppe diceva della differenza appunto di divertimento in sé per sé fra il giocattolo e il videogioco. Questo è qualunque altro forse, no? Secondo me dipende molto dal fatto che nel momento in cui tu usi un giocattolo, che può essere un pupazzo oppure una costruzione Lego, qualunque cosa, cioè tu stai usando un mezzo con cui appunto tu sei portato a usare la tua fantasia per creare una storia, per creare una situazione. Con un videogame invece tu usi, consumi un qualcosa che è già stato scritto, è già stato impostato, e tu devi semplicemente scoprirlo, aprire la bocca e lasciarlo scendere dentro, insomma, come se fosse un nettare, insomma. Beh, un'allegoria molto carina. No, immaginate perché il nettare hai detto bene. Nettare di idee. Comunque no, per rispondere, cioè, nel senso, invece, come usufruitore, dice tu, certo, in realtà sì, devi, sei più passivo, lo devi solo assorbire, esatto, lo devi assimilare. Passivo fino a un certo punto. Passivo fino a un certo punto, però passivo ai fini della narrazione. Sì. Quindi specialmente poi se parliamo dei videogiochi di un tempo. Della narrazione, ma anche di come viene incartato, presentato il tutto, perché comunque tu là devi fare uno sforzo di fantasia, devi cominciare a pensare anche, certo, al setting, allo sfondo, eccetera, quando in realtà tu vieni... lo schermo viene inondato a luci, colori, suoni. Sì. C'è anche molto, secondo me, questo è il significato. Comunque le luci e i colori, perché vediamo i bambini, per dire, che quando vedono un iPad o uno schermo in generale rimangono quasi ipnotizzati, cioè, proprio, puoi fare qualunque cosa, li puoi smuovere, fare, e quelli rimangono lì incantati davanti alla bellezza delle immagini, dei colori, delle cose. I videogiochi sono così, se ci pensate, insomma, sono proprio primordiali come impulsi per i più piccoli, poi soprattutto, e noi siamo stati ovviamente più piccoli. Tu, Simone, sei stato più piccolo? Guarda, sembra una cosa strana, ma in realtà sì, sono stato piccolo pure io, e non sembra. E poi, tra l'altro, ero pure magro e con i capelli lunghi, esattamente. E biondi, perché io me li tingevo i capelli. Poi, quando ha spacchettato il Commodore 16, ha preso tutti i capelli e strappato. Era il V20, era il mio. Come un Simpson. Devo dire una cosa, proprio molto sinteticamente, perché in realtà io a una domanda come questa non solo faccio fatica a rispondere, ma in realtà parto da quello che ha chiesto Peppe, cioè nel senso, che cos'è intanto che ti ha attirato. In generale, sin da quando ero bambino mi attirava qualsiasi cosa che aveva una visualizzazione. È un po' strano come concetto, ma in realtà poteva essere il cinema, come poteva essere il filmino Super 8, come potevano essere le diapositive, come poteva essere lo schermo di un computer, il cursore che lampeggiava, e mi ricordo benissimo uno dei famosi demo del Commodore 64, di quelli natalizi, l'animazione, che lo vidi praticamente sulla vetrina di un negozio dove c'era stato televisore messo lì a colori con questa animazione fatta con 4 pixel in croce, che per me era la fascinazione di un universo misterioso che era quello del computer, no? Che era quello dell'elettronica, che era quello quello che oggi noi chiamiamo informatica, ma che per noi allora era il computer, che chissà quante cose si possono fare col computer, no? E chissà quanti videogiochi o quanti, diciamo, l'idea del fatto che tu col computer, perché ricordiamo, se diceva computer, certo, ci parlavi, mo oggi, nel senso, tutto un discorso che abbiamo fatto diverse volte anche su archeologia videoludica. Questo è un po' un discorso. C'è anche una motivazione psicologica, perché io sono sempre stato attratto verso determinate cose, ma a differenza di Peppe, che ammiro profondamente dal suo punto di vista, magari sono meno incline magari al coming out, come diciamo così, nel senso, comunque poi so cose che riguardano me, e queste sono, e queste tali rimangono. Quanto poi i videogiochi hanno rappresentato nella mia vita, hanno rappresentato, se dovessi fare una percentuale, dividendo, ecco, tra videogiochi, altro tipo di giochi, altro tipo di esperienze e socialità, diciamo che hanno rappresentato un 25%, quindi un quarto di tutte le altre cose assieme, perché io poi nella mia vita ho fatto veramente un po' di tutto e ho avuto anche diverse fasi, nel senso, ho avuto l'era di quel tipo, l'era di quell'altro tipo, l'era dei videogiochi e via dicendo. Quindi c'è stato anche un periodo in cui dai videogiochi mi ero completamente non solo allontanato, ma completamente disintossicato, non ne sapevo proprio più niente, fino ad arrivare addirittura probabilmente, ecco, forse è stata proprio anche se ho sempre avuto la PlayStation 2, mi ha riportato un po' ai videogiochi per un periodo di tempo. Questo è per quello lo vediamo dopo, ho aggiunto il punto dopo. Vai, Biggio, su questo appositamente. Tu invece? Io invece è una cosa un po' mista, diciamo, perché anche io sono stato sempre, insomma, abbastanza disinteressato, nonostante abbia sempre fatto anche altri giochi, appunto, come il Lego, come i Transformer, come i trans e basta. I transgender, anche oggi. le Lady cose, Boys. No? Come si chiamano? Lady Boys. Lady Boys, bravo, non me veniva. Però avevo sempre questo interesse verso i videogiochi da sempre. Non so bene sinceramente il motivo poi come la cosa si è scatenata, però in linea di massima da sempre mi hanno suggestionato e influenzato un po' come metodo per socializzare, perché comunque io ricordo che diventai amico di persone che sono rimaste mie amiche molto tempo, di, che adesso insomma, non frequento più per, anche per motivi di distanze, anche e soprattutto mia, e spero sia parlando lì, proprio di videogiochi. Io ricordo le medie con Marco, che saluto, e avevo così, vi ricordate i POG, quelle cose, tipo erano come dei tappi praticamente. Cosa? I POG, una cosa, una cosa anni 90, metà anni 90. Era la proceduralità sarda che produceva i tappi. No, ne ho parlato anche con altre persone. Erano come dei tappi, delle tavolette circolari, delle cosettine così. Io avevo quelli di Mortal Kombat. E allora lì, ma che li facevi saltare? Sì, li facevi saltare, però questi qui li potevi anche tirare addirittura. Ho capito. Comunque, fatto sta credere, Mortal Kombat, conosci Mortal Kombat? Sì, anche io gioco a Mortal Kombat. E lì si era creato un gruppetto di super nerd incredibili, dove parlavamo letteralmente dei videogiochi e cose varie, cosa è uscito, cosa hai fatto, cosa avevi, scambi di videogiochi, eccetera, eccetera. E ricorderò sempre, invece, più piccolo, a casa di un amico, quando non aveva ancora il Nintendo, lui invece, un altro Marco, possedeva il Nintendo. E, in che senso? Insomma, senso fisico. Fisico, ovviamente. Io ti possiedo Nintendo. Sì, esatto. La Nintendo, proprio la Nintendo. La compagnia. E lui. Che sappiamo, era una nota compagnia di mignotte. Esatto. Comunque, io andavo lì, giocavo un po'. E poi uno mi fa: ascolta, dai, sono tutti gli altri. Andiamo, scendiamo, giochiamo col pallone. No. Ho fatto, no. Ma che? Diciamo che rimaniamo qui, giochiamo. No, insomma, è finito che lui è sceso già a giocare, io sono rimasto a giocare a Super Mario, con la storica cassetta Super Mario da canta assieme. E questo per dire, ma anche io ricordo che ad esempio i miei genitori indirettamente sono rimasti influenzati dai videogiochi, perché io so che, cioè, ad esempio mio padre si ricorda certe frasi del primo Metal Gear Solid e certi personaggi. E lì mi sono reso conto che forse ci avevo giocato un po' troppo, ecco, diciamo, mettiamola così. Quello è Tekken. Cioè, la cosa ha colpito talmente me da colpire indirettamente anche altre persone. Ma soprattutto quando c'è il momento in cui non citi più i film ma citi i videogiochi, lì è tosta. Anche. Infatti. Quello, ad esempio, The Neverhood, io ricordo da poco, quest'estate, ho citato un pezzo della colonna sonora di The Neverhood mentre lavoravo con mio fratello, anche lui accanito giocatore di The Neverhood, che è una citazione che probabilmente quello con la lastrina, esatto, quello della Microsoft, punto e clicca storico, bellissimo tra l'altro, nonché difficilissimo, quello, ma potrei fare tantissimi altri esempi. Quindi in linea di massima ho lasciato che i videogiochi accompagnassero costantemente la mia vita per tutta una serie di ragioni, da quelle più basiche, diciamo quelle ludiche, cioè voglio giocare, a quelle per distrarmi, a quelle per magari anche scaricare la rabbia in certi casi, in maniere civili, o meglio incivili all'interno del videogioco, ma civili all'esterno del videogioco. È un po' per tutto, come antidepressivo, come anche appunto come mezzo di comunicazione con altre persone, cioè quando tu sai di avere quella passione in comune, come vale per tutto, quindi se tu hai la passione del modellismo o degli aeroplani, trovi un altro che è quella cosa lì e allora inizi a parlare, magari ci fai amicizia e così via, sino a insomma diventare una cosa più importante. Ha influenzato ad esempio la mia scelta delle superiori, perché mi dissero vai al tecnico industriale, lì ti insegnano la programmazione, così poi potrei programmare i videogiochi. Invece non era vero. Ah, ok. Insegnavano poco e un cazzo, mettiamola così. Ma veramente in generale nelle scuole programmare i videogiochi, quando mi insegnate ti ricordavano male. No, non mi insegnavo, ma neanche quello, cioè, le ore di programmazione erano pochissime, fatte male, di una noia. Io sono così, cioè, no. Tra l'altro, diciamo ai nostri ascoltatori che presto ci sarà una puntata che sarà una puntata controversa. proprio alla fine di questa trasmissione, che non diciamo il titolo perché il titolo è già di per sé una provocazione, però è una puntata che parlerà di un grande game designer, giusto? Un grande, cioè, autore di videogiochi, sì. E cercando di affrontarlo ovviamente dal punto di vista di ideologia videoludica, insomma, con i suoi, sì, suoi, quindi parliamo di Marco Gualdi. Parliamo di Marco Gualdi, esatto. Grande game designer. Quindi sì, la mia vita l'ha influenzata in maniera piuttosto profonda, se non, probabilmente non sarei qui a parlarne. Però in maniera tendenzialmente sempre, l'ho sempre giudicata positiva. Anche lì poi magari parlerò del mio periodo refrattario, che non ricordo bene, è stato un periodo buio della mia vita nel quale ho giocato davvero poco, seguivo davvero pochi videogiochi, e i podcast hanno, mi hanno riportato a videogiocare in maniera hardcore. Bene, detto ciò, sì. Qui è una domanda abbastanza veloce, risposta abbastanza veloce in teoria. Ovvero, quali videogiochi vi hanno colpito al punto tale da cambiare una abitudine, modo di dire, di fare? Cioè, cosa vi ha... videogiochi, se ce ne sono ovviamente, o un singolo videogioco, cioè, che non lo so, dopo aver giocato a Resident Evil sto attento a Doberman, esatto, oppure se gocciola del sangue dal soffitto, guardo sempre in alto per assicurarmi che non ci sia, come sempre, come succede spesso nelle nostre case. E ho un modo di dire, una frase ricorrente, una cosa, abitudine. Sì, è un'abitudine, qualunque cosa che dai videogiochi è passata alla realtà e che tuttora vi portate dietro. Richiedo a Peps. Beh, allora, visto che comunque io farò in questo episodio reci del drogato, del tossicomane di turno, beh, è una cosa che forse avevo già anche accennato. Ossia il mio periodo in... quello sì, e quello ci sono passati un po' tutti, un però che ha cambiato la mia abitudine non solo di giocare in sé, perché sono passato dal giocare insomma diversi giochi nell'arco dei vari mesi a giocare praticamente per quasi 2 anni lo stesso gioco, non fregandomi uscisse, e poi ovviamente ha contribuito molto anche proprio alle mie abitudini, perché io solitamente non sono il tipo, per esempio, anche tuttora gioca molto di sera, ma con molto volte distanze di più alto livello ero disposto comunque ad arrivare fino alle 3-4 di notte, sera, che poi quando poi cominciai a lavorare era pure una botta, perché dovevi alzare dopo 2-3 ore con i coglioni per andare al lavoro, o anche nei fine settimana, cioè nei fine settimana non esisteva più l'uscita per andare, ti seccava pure prepararti che so, un piatto di pasta, perché non volevi neanche perdere quei 2 minuti, no? Perché magari potevano contattarti se magari eri un membro di alto rango di una gilda, che, no? Poi, che poi se ce ne pensi, Peppe, tipo quando abbiamo fatto la puntata pure posso smettere, sì, quando voglio, esatto. Il principio un po' è quello, insomma, perché sì, perché in realtà non nascondo che uno dei componenti che ci mantengono tuttora ancorati, legati a questo hobby è proprio anche comunque un... non appunto quella che magari avevo anche in quel periodo, ma un certo attaccamento morboso, una certa dipendenza che proprio tu non ne puoi fare a meno comunque di ogni tanto di giocare, non dico ogni giorno, ma almeno vedere insomma che cos'è, vedere anche un pezzettino nuovo, un livello ancora affrontato, di vedere come procede la trama nella storia del tuo gioco preferito, cioè, no, di curiosità, e questo insomma particolare questa fase quando tu la ricordo forse come proprio il periodo più duro del giocatore, perché stava paradossalmente, mi stava pure appunto tagliando fuori non solo da tutta la sfera sociale, ma anche proprio dalla restante parte della realtà videoludica, no? Perché proprio non me ne fregava più niente di. Sì, beh, è comprensibile, ci sono passato anche io, più o meno. Beh, ci sono passati in tanti, dai. Sì. Più o meno, solo per i videogiochi, per la parte sociale, più o meno non ho avuto grossi problemi. Dalla parte videoludica giocavo solo a quello, un po' perché avevo solo quello e un po' perché sinceramente non avevo interesse nell'avere altro. Avevi solo quello, quindi, appunto perché ti bastava ormai. Esatto, quello, esatto. Non andavo a cercare altro. Esatto. E Marco? Allora, c'è qualche gioco che ti ha sbirillato, che ti viene ancora in mente la cosa e la utilizzi, una parola, una frase, un'abitudine? Che altro? Niente di che. Beh, dopo aver giocato a Lucius me la chiudo dentro un frigorifero, però. Sì. Volevo anche fotografare i vicini che trombavano. Però no, volevo. Io quello facevo. Questa cosa lo faccio con. No, è vero, io no. Una volta, cioè, da un periodo. Io, dai, questa è la puntata che uno fa coming out. C'era un periodo che mi aveva preso il trip che sbirciavo da quando stavo a Roma, col cannocchiale nelle finestre dell'altro. Ma salutiamo i vicini di Simona che ci ascoltano. Buonasera, signora. Io, guardate, vi dico, io veramente lo dico proprio tranquillamente. Ho avuto 100 vite, cioè proprio 100 capitoli completamente diversi della mia esistenza, come il dottor U proprio. Non c'avevi il sigaro, l'uomo che guarda, no? Stavi lì. No, però cioè, c'è stato il periodo, per esempio, che io la notte non dormivo perché arrivava il meteorite e mi distruggeva tutto. Cioè, non dormivo la notte con l'angoscia che arrivava il meteorite, per dirti. Poi sono periodi bellissimi, molto belli, in cui non avevo niente di tutte queste paranoie. Però adesso c'è la paranoia che deve fare radio. Però adesso di sì. Ci riuscirà. No, io diciamo che questo c'è la paranoia del documentario. Cito comunque in collaborazione Air Pizzi, perché è una cosa che abbiamo condiviso, che abbiamo già citato diverse volte, tipo Fallout. E che ci manca. Che ci manca, poi ma arriverà, io sono sicuro che arriverà. È quella dell'ossessione dei tappi. Allora, io a parte sono in videogiochi, sono un compulsivo ossessivo, l'ho già detto anche diverse volte, c'è scritto anche una. No, lui lo è in generale, poi nei videogiochi. Sono proprio, cioè, io comincio a collezionare tutto. Avete presente quelle trasmissioni americane? Accumulo cose. Esatto. Sì, io sono nel videogioco, sono un accumulatore, anche un po' nella vita, però nella vita mi rendo conto troppo a vuoto. Quindi... Se tu entravi, andavi, aprivi il suo armadio su Fallout, c'era mezzo Fallout. No, c'è stato tutto, tutte le armi uniche. Infatti, una copia, certo, di ogni armatura, di ogni il arma. Gioco crashava. Certo, sì, praticamente, no, io cosa bella che ho provato a fare questa cosa su Skyrim. Allora, quando ho fatto l'articolo sulla compulsione, cioè la mia compulsione ossessiva. Ho preso il mio personaggio, sono andato nella mia casa dove c'erano tutti quanti gli oggetti, ho cominciato a tirare fuori tutti gli oggetti che stavano, gemme, materiali delle costruzioni, armi, armature, munizioni, ho cominciato a tirare fuori tutto e l'ho buttato sul pavimento. Cioè, ragazzi, come largava quel gioco, potete immaginarvi. C'è anche una, tu sei 5 fotogrammi al secondo. Ma neanche, cioè, proprio non si muove. Perché tu sei un accumulatore compulsivo. Assolutamente. No, perché sì. Qualsiasi cosa nella realtà mi rendo conto, ma nel videogioco, quando c'è spazio infinito, vai lì, butti via dietro. No, cioè, sta cosa di tappi, comunque è una cosa reale. La cosa di tappi, io nella vita reale, avendo proprio questa cosa della compulsione, e accumulato qualsiasi tappi, io nel videogioco Fallout e anche in New Vegas mettevo in prima persona, perché durante l'esplorazione in terza persona, ma nei dungeon, quando si trovano i tappi sparsi, mettevo in prima persona e cominciavo a cercare i singoli tappi buttati e li prendevo tutti. Me lo faccio anche con Skyrim quando metti i pezzi d'oro in giro. Comincio a prendere tutti uno per uno, e quindi nella realtà, quando poi andavo in giro e magari guardavo per terra e c'era un tappo, io non lo andavo a raccogliere. Ma però ci pensavi. Dentro di me il puntatore puntava il tappo, tappo. E ci cliccavo sopra. E c'era scritto tappo sopra. E ci cliccavo sopra. Quindi questa cosa mi ma il puntatore era verde, bianco o arancione? Verde. Ho paura. È vero, anche io Fallout è verde. Ma pure Pizzi era così. Certo, sì, è vero. Li accumulavo. Cioè il secchio, tu vedevi il secchio, io non vedevo il secchio, vedevo il puntatore con la scritta secchio sopra. E dice che c'è nel secchio, i suoi tappi. E a questo c'era, cioè, come dire, è rimasta questa cosa, o quando è iniziato ad avere questa compulsività nei videogiochi? Sempre, sempre. Cioè, sempre accumulato. Io sono un accumulatore compulsivo. Cioè lui per esempio il discorso, se per sbaglio cliccava sull'acqua e beveva l'acqua radioattiva, si sentiva male lui fisicamente, capito? Cioè io allora vomitava. Questo è il crimine. Se vedete presente dove si trovava la River City, no? Che stava in basso, sì, a destra nella mappa, che era circondata dal fiume radioattivo. Io nel gioco, ma non nel gioco, nella realtà, io sono fatta stato nuova due settimane a cercare una via d'accesso che non fosse attraverso il, cioè il nuotare dentro al fiume, sennò mi diventava radioattivo il personaggio. Sono state due settimane a girare intorno per cercare una. Io bevevo l'acqua dei cessi proprio. Non ma quello come i cani. Ma no, perché vedevo c'era la tassa del cesso e vedevo che segnalava una cosa, però non vedevo che mi diceva acqua. Io pensavo c'era qualcosa dentro. Cliccavo e lui diceva: perché bevi l'acqua dei cessi? Ah, che ne so, pensavo c'era un oggetto dentro. Vabbè, la realtà è sempre bene. E quindi insomma questo ti sei reso conto di una, cioè come dire, di questa tua compulsività grazie ai videogiochi in qualche maniera? Forse l'ha cresciuta, chi può dirlo? O l'ha addirittura cresciuta. Aspetta che vada a creare la tua voce. Esatto, sì, esatto. Controllo, c'è un po' sede, posso andare, ma... se senti rumore di persone, qualcuno che deglutisce, beve, sai chi è, Carlo? Quindi stai molto attento. Ma invece la mia storia è molto simile a quella di Marco, perché anch'io sono stato accumulatore compulsivo. Anch'io ho cambiato vita proprio a 31 anni, perché diciamo prima di 31 io ero un accumulatore compulsivo di collector edition in modo quasi patologico. Sì. Io compravo collector edition di qualunque tipo, anche di giochi che magari a volte capitava di non giocare proprio affatto. Cioè come adesso fanno molti utenti Steam con i giochi. Cioè. Io lo facevo con i giochi fisici, che è pure peggio. È preoccupante, certo. E poi ho deciso la polvere, pensa a casa come erano contenti. Io sono pure allergico alla polvere, per cui c'è, cioè, un connubio terribile. Ma sei in catorcio. No, oltretutto poi io insomma prima di quel tempo pesavo 141 kg e ho deciso di dare un attimo una svolta alla mia vita, e quindi ho dieta, palestra, e ho praticamente regalato in parte 141 kg, è una bella bestiolina, bella. Ti sei dato da 99 battiti al minuto, immagino. Sono dimagrito, ero però a 60 frame al secondo. Sono dimagrito 50 kg e proceduralmente logaritmicamente. E adesso, insomma, purtroppo, ecco, vedi, a conoscermi prima avrei potuto regalare tante cose, però purtroppo. Perché te le buttate? No, non l'ho buttate, però l'ho data in parte a GameStop, in parte l'ho regalata ai miei colleghi, le cose. L'ho buttate. Sì, è vero, adesso ci ho pensato, l'ho buttate, sì. Per cui non è che ci sia stato un vero videogioco che mi abbia cambiato, cioè è stata proprio una commistione di generi e di motivi, per cui... E dunque adesso sia peggio sia meglio, semplicemente adesso io ho una visione dei videogiochi un po' più oculata. Adesso i videogiochi occupano una parte della mia vita, come occupa il lavoro, come occupa l'amore, come occupa tante i miei hobby, i miei amici, per cui fanno semplicemente parte di, prima erano invece parte preponderante di, cioè io appunto, come diceva Giuseppe prima, ho sacrificato tantissimo. Da un ruolo centrale a sì, un po' più. Sì, era proprio il perno, no? della mia vita. Io avevo stato un momento, probabilmente anche per me è stato così, ma no, è uno dei miei tante vite. Per esempio, guarda, ti dico per esempio il fatto di Fallout, che l'ha detto Marco, e quindi condivido pienamente, perché in effetti è stato così. Probabilmente il primo Silent Hill, cioè quello, dice, in che modo ti ha influenzato, che mi faceva cagare sotto. Pure a me. Cioè il primo Silent Hill era veramente terribile, okay. Quando si trasformava la città era veramente, sì, terribile, e pur avendolo finito insomma me lo sognavo, perché poi a me mi succedeva quella cosa che quando giocavi troppo tempo a un gioco la notte ero nervoso, cioè non riuscivo a dormire bene, e la stessa cosa con Doom. Succede ancora questo. Doom facevo le notti intere, e ecco, come diceva, ai 3 del mattino, 4 del mattino, poi ai 7 e mezza mi svegliavo, andavo a lavorare. Mi ho fatto ricordare ora sia con Silent Hill che con qualche altro gioco, magari hardcore. Mi ho fatto ricordare comunque non solo, appunto, non. magari hanno paura quando mi imparano, comunque ero un po' disturbato, ma anche il fatto che non ci volevo giocare neanche tanto a lungo perché avevo paura che magari chissà che cosa potesse succedere mentre giocavo, non so, delle mentali, suggestioni, no? Sono suggestioni. Cioè, no, ma magari che... quel gioco, appunto, quando il caso di Silent Hill, per esempio, non ci volevo mai giocare quando ero da solo a casa. Ma quello non è la scena del gatto, ragazzi. Se c'era, cioè, a me bastava anche che ci fosse qualcuno che mi dava già, anche che fosse in un'altra stanza della casa, ma il sapere di non restare solo, anche quel gioco spiritica, no? Perché non stavi completamente solo. E poi ecco, poi FIFA per esempio ha rappresentato per tanta paura, eh? Tanta paura. No, FIFA ha rappresentato tanto perché con due miei amici praticamente ogni sera per almeno due anni probabilmente ci facciamo le 2 le 3 del mattino a giocare, facciamo i tornei, però lo schiaffi lì, proprio quello, lì erano proprio sganassoni, perché poi quando rosicavi semenavamo veramente, quello invece lo facevo più io con i picchiaduro. No, noi FIFA perché era il gioco secondo me FIFA, esatto, bravo. FIFA è il gioco che anche chi non è veramente appassionato ai videogiochi e se impara a giocarci, diciamo, è il gioco che, con cui ci condividi anche con una persona che non è particolarmente appassionata. E mi ricorderò sempre questa scena che mi rimane impressa, che è una stupidaggine, magari non fa neanche ride, però è un po' quelle immagini che ti rimangono un po' nella mente, anche per una questione affettiva, così, no? Che noi ovviamente stavamo, io quando appunto abitavo a Roma, c'avevo l'ingresso, la casa che avevo a Roma era veramente molto grande e c'era l'ingresso dove io avevo fatto sto studiolo, dove c'era il computer, la tastiera e varie cose, insomma, con cui facevo anche montaggi video. E praticamente che succede? Succede che noi giocavamo, ci chiudevamo praticamente là dentro, e qui c'è il nostro amico invisibile, intanto vabbè, poi spieghiamo dopo perché, e quando stavamo lì praticamente ci chiudevamo dentro, giocavamo a FIFA, fumo a tutto spiano, mi ricordo una notte si sente proprio la porta e si apre, esce fuori, si affaccia mia madre, che come neanche si è affacciata già aveva gli occhi rossi per il fumo che c'è stava dentro, che a malapena la vedevo, è scappata praticamente da questa immensa orda di fumo che c'è stava dentro, insomma, la stupidaggine. Però ecco, se uno dice fumo è gente sudata e incazzosa, tra l'altro che noi semenavamo, perché cioè c'era l'amico nostro, certo, prendeva la Juve che regolarmente vinceva sempre rubando come la vita reale, esatto, e nel senso che in FIFA era previsto il fatto che se tu tiravi da centrocampo con la Juve, capace che segnavi, insomma, tu vincevi 2-1 al 90, no, lui non finiva la partita fino a che lui, la Juve, non segnava. Era una cosa incredibile, e le botte che sedavamo su questa cosa. Vai, Biggio. Bene, sì, ok, quindi direi che tutto sommato non vi è rimasto, insomma, non sono visto rimaste cose in maniera esagerata, cioè cose troppo attaccate, forse per fortuna non vi sono rimaste in certi casi. E l'altra, come? Mai soppresse. Mai soppresse, esatto. O dimenticate, forse, in certi casi. Io ad esempio accumulavo manga, collezionavo manga, ma non videogiochi, e videogiocavo anche. E anch'io da accumulatore compulsivo sono passato a tutto digitale, libri inclusi. Sono forse tornato un po' alla cosa fisica con i vinili, ma si parla di tempi abbastanza recenti, diciamo, in linea di massima, quando ho ripreso tutto. Comunque ho passato il mio brutto periodo anche io, mettiamola così. Sai che anch'io collezionavo tantissimi manga, poi ho rivenduto tutto anche in quel caso. No, io ce li ho ancora, perché quelli proprio a cui sono molto affezionato, io manga, ma sinceramente non li leggo, non li uso, ce li ho a Cagliari, quindi figurati. Manga di Cagliari. Ce li a Cagliari, adesso ti hanno venduto tutto, sappiamo. Penso che l'idea di mia madre sia sempre quella, che sono fatto un draghe tutto al posto della tua stanza. Comunque, l'altra cosa che mi chiedo: cosa vi hanno insegnato i videogiochi e a cosa avete imparato di utile, ovviamente, da loro? Inutile, sappiamo tutti che abbiamo imparato di tutto. La cifra, sì, però, sì, veramente una cifra di cose inutili. Però di utile, cosa avete imparato, cosa vi hanno insegnato? Io posso raccontarti che... Perché inizi tu, scusa? Perché sto qui. Vabbè, dai, faglielo dire, visto che c'è, non succede niente. perché mi sembra, adesso non ricordo bene la sigla del fucile, ma gli M16, i fucili quelli americani, cioè presenti, quelli che sì, quelli erano disegnati per avere 16 colpi canna, ma ne mettevano sempre 15 nel caricatore, perché pur essendo descritti come fucili autolubrificanti, autopulenti, che non hanno bisogno di nessun tipo di lavoro per di manutenzione, in realtà se tu ci mettevi 16 proiettili tendevano a incepparsi. Attenzione. E quindi ne mettevano 15 per poter sparare. Io ho imparato a volare. Momento di cultura. Ho imparato a pilotare in aeroplano. Ho imparato che durante la seconda guerra mondiale i russi facevano allenamento con le patate dentro i secchi. Esatto, che durante il barco di Stalingrado che abbiamo detto. Non ci ha mai giocato a Call of Duty. Te, Call of Duty. Call of Duty. No, però Call of Duty. Call of Duty era bellissimo. Che durante lo sbarco, come ho già detto in un'altra puntata, andavano uno con un fucile e uno con un caricatore, perché tanto sul territorio ne avrebbero trovate benzine. Quante volte l'hai detto sta cosa? Tante, perché mi ricordo due cose io, sai, quello purtroppo devo dire fuori. Siccome che fa podcast, tappi, lui qualcosa deve dire. Esatto, cioè. I tappi, Stalingrado, i capisaldi, insomma. Vabbè, ma in pratica c'è qualcosa di utile che ti è servito nella vita. Ah, nella vita, cioè, nella vita. Nella vita vera. Non tanto no, che hai imparato. Vabbè, allora che no, deve dire io che mangiare pasticche, quello sì. No, a parte scherzi, una cosa, diciamo, educativa, propedeutica, anche da vedevo i videogiochi, è stato il fatto che pronato a imparare la lingua inglese. Ah, questo sì. Bravo. Molti videogiochi, vabbè, anche la musica, solo in inglese, però magari quelli che erano più sempre incentrati sulla narrativa, come le avventure grafiche. Se ricordiamo quel tempo i videogiochi non erano affatto localizzati in italiano. Il videogioco è comunque un mezzo attivo, la musica, il film, esatto, sono passivi, cioè tu capisci e basta, lì devi solo capire, anche a volte rispondi, esatto, per cui devi capire, sì, cosa rispondi, specie nelle avventure grafiche che non erano, diciamo, punta e clicca, quindi non dico quelle, no, ma in tanti comunque, quelle della Sierra o anche quelle più testuali tipo Zork eccetera, comunque mi hanno spronato appunto a imparare l'inglese per poter andare avanti nel gioco, per non dovere, per esempio, che so io, cioè mia zia che appunto mi ha anche fatto le primissime lezioni di inglese ancora prima che elementare ancora non si faceva la lingua, però andavo a lezione da mia zia per imparare rudimenti della lingua, proprio per poter cominciare anche quattro parole su schermo a capire effettivamente che cosa dicesse, che cosa significasse. Devo dire che da lei poi, insomma, viene. Beh, questo è un bello spunto, in effetti non sei, l'ho sentito da tante cose, da tante, sì, persone, sta cosa in effetti è una cosa che ammiro anch'io, perché a me i videogiochi non mi hanno insegnato manco quello. Quindi, no, cioè, ma potete dire pure io l'inglese, tutto sommato, sì, sono, anche, sì, perché anche sentendo, anche magari come sottotitoli, ma sentendo comunque il parlato è tipo fuck, oh fuck, motherfucker, e così, e da lì è diventato amico di William Shatner. Tu invece, Carlo? No, io pure sicuramente l'inglese. Sì, vabbè, questo abbiamo capito. Aggiungiamo. Il francese è stato anche. No, però... E voi italiani siete poco più che scimmie ammaestrate. No, l'inglese sicuramente. Anzi, tra l'altro, io vi aggiungo pure un'altra cosa. Io, vabbè, purtroppo non ho avuto la fortuna di Giuseppe di avere addirittura un familiare che insegnasse i rudimenti, le cose. Io, il primo approccio che ho avuto all'inglese a scuola è stato disastroso. Io proprio non ero assolutamente in grado, non mi piaceva, non mi interessava. Te rifiutavo. E invece è un paradosso, però sono stati i videogiochi che mi hanno instradato nella cosa, ma non solo, anche in quello che faccio oggi, cioè nell'audio, nel doppiaggio. Beh, ovviamente, certo. Quindi tutto, cioè il media videoludico, man mano che si è evoluto, ovviamente ha voluto sempre più spazio a livello tecnologico e quindi anche artistico, e così facendo, insomma, a me poi piace molto quando qualcuno mi racconta una bella storia, per cui secondo me io in questo punto molto sui videogiochi, e per me la considerazione più o meno bassa o alta che ho di un media videoludico è in base a quanta, sì, qualità c'ha la narrazione. Sì, sì, sì, questo, vabbè, questo anche io, molto, anche importante, perché non gioco online, quindi, però no, assolutamente, insomma, neanche io. Per quanto riguarda me, cosa mi hanno insegnato? L'avrei potuto pensarci a sta domanda, non ci ho pensato, e quindi devo dire la verità. Cioè, ecco, la battuta che ho fatto prima è forse quella più sensata. Mai mi hanno insegnato a pilotare un F-18. Cioè, vabbè. A giocare a calcio, visto. Ma no, però giocare a calcio è diverso. Mentre che giocare a calcio è veramente una riproduzione in joypad di un concetto, insomma, un po' difficilmente riapplicabile. Invece, in realtà, il simulato del volo ti mette di fronte alle condizioni di sapere, di imparare i comandi. Poi, dopo che i comandi su un cockpit, su una plancia di un aereo siano diversi da quelli della tastiera, ok, però sono quelli. Vabbè, ma nel senso, comunque tu un certo tipo di discorso, di procedura te la sei imparata, quindi procedurale pure questa, esatto. Ritorna sempre volendo, come anche quelli di guida come test drive sì. Il concetto di scalare di marcia, di rallentare prima della curva, perché altrimenti poi saresti andato fuori pista, insomma, queste cose comunque pure a prendere la patente in qualche maniera avranno contribuito, penso. No, diciamo che l'unica cosa che veramente un po', ecco, quello che diceva Carlo, il fatto che mi hanno sempre stimolato ad imparare cose che erano inerenti alle cose che mi piacevano, quindi al discorso narrativo, al discorso audio, al discorso video, l'animazione, al cinema e via dicendo, cose che... ma chi è? Scusate, vabbè, tu Biggio invece... Io cito ovviamente l'inglese, anche io, perché senza quello, un po' di giapponese anche, davvero, scherzo. Ma giapponese, io pure ho giocato a molti giochi che ai tempi potevi ottenere solo di quello e gli hentai, però mi hanno aiutato molto. Ma il giapponese è stato più difficile, anche perché tuttora al limite mi ho imparato solo a distinguere qualche ideogramma. Sì, ma io neanche quello, proprio la pronuncia, certe parole, il suo significato, tutta una serie di parole più o meno zozze. Tipo bucacchè, no? Queste cose qui. Sangue, soprattutto quello l'ho imparato da subito, stare molto attento. Quello, ma ad esempio, certi giochi, delle nozioni storiche, scherzi a parte, quelle che citava Marco, da i primi Call of Duty quando erano un po' interessanti, ma anche giochi più recenti come Valiant Hearts. Valiant Hearts è quello che paradossalmente mi ha dato più emozioni. Esatto, sulla prima guerra mondiale è pieno di informazioni interessanti. Sapere che per evitare gli effetti nocivi del gas dovevi semplicemente bere l'acqua. In un fazzoletto e poi metterti la pipì vicino al naso, no, l'urina vicino al naso, perché in qualche maniera contrastava l'effetto del cloro, no? Esatto, quello, e poi mi hanno anche insegnato a aggiustare i computer da un punto di vista software, ovviamente, perché tendenzialmente quei primi vecchi computer, quando c'era DOS i treni arrivavano in orario. Allora i videogiochi ci hanno imparato a smanettare sull'out exec but e sul config sys. Esatto. Questo senza meno, è vero. Perché siamo stati imparati. Però oggettivamente è fuorviante rispetto alla domanda, perché sì, ci hanno imparato a fare questo, ma oggettivamente, per i videogiochi, qual era l'utilità di questa cosa? Cioè, nel senso, del videogioco in sé, allora, uno, evitare casini col proprietario del computer. No, beh, perché magari, cosa ne so, andavo da un amico, proviamo sto gioco qua, combinavamo un casino ed ero portato a dover imparare a sistemare il computer, cosa che anche e quindi questa cosa comunque mi è rimasta, perché mi è rimasta la passione. Vabbè, raccontarla, il lavoro che sto tutto cercando è quello di, ma lo sai perché mi piace, come tecnico, eccetera. Sai perché mi piacerebbe, quindi, raccontarla questa cosa che dice Giuseppe Stefano, perché in realtà noi sembra una stupidaggine, noi, allora, abbiamo, chi è giovane capisce che ci sono questi due file nei quali bisogna smanettare per far partire i giochi. Ma in che senso? Nel senso, che cosa andavi a fare? Andavi a sottrarre ai caricamenti dei driver del DOS elementi che potenzialmente non servivano e liberavano memoria, ma stiamo a parlare nell'ordine dei K qualche volta, cioè nel senso, cazzo, non riesco a partire perché non riesco a liberarsi tu K, perché la memoria del DOS, com'era, Giuseppe, tu lo ricordi bene più o meno? Era procedurale. No, è che praticamente il DOS, non, a livello di esecuzione come sistema operativo, non gestiva più dei 640K. Ok, e quindi il file eseguibile a volte dovevi sacrificare anche alcuni magari micro utilities che lanciavi pure Lotex e Combat, però per poter risparmiare 2-3k dovevi fare una configurazione particolare lanciando il 486, quelli che sì, anche. Per allocare. Poi c'era la memoria normale, la memoria estesa. Esatto. Quanti cazzi? Vai, scusa, Biggio, però. Sono cose che voi diciottenni di oggi, ma non potete proprio capire. Ma no, ragazzi, no, cioè, no, lascia perdere. Anche proprio commentare alcune righe, perché magari alcuni giochi di una volta, quelli del DOS, ti ricordi? A volte creavano, avevano dei conflitti con altri programmi magari che venivano lanciati in corso con l'autex, esatto, no? Quindi se non toglievi quelli, il gioco non ti partiva, non fu un problema di memoria, proprio perché andavi in conflitto con alcuni spazi della memoria allocati da quel tipo. Era terribile, certo. Ma infatti era. C'erano appunto queste cose di base, ma anche puttanate, tipo ho cancellato un file per sbaglio, un file importante, come faccio a copiare di nuovo questo file da DOS? Allora impara il comando, allora la prossima volta che ti succede lo eviti, e lentamente, nel mio caso ad esempio, sono diventato da prima quello che il danno lo faceva a quello che il danno lo sistemava, no? Scoprire il discorso dei canali della Sound Blaster, vi ricordate? Mamma mia! C'è Claudio per vedere se dentro la scheda veniva riconosciuta da quel particolare gioco. Input, output, dovevi configurare, sì. Ma che ormai non abbiamo mai scontati. Che tempi, no, poi dopo voglio dire, anche i programmi di installazione cominciavano a automatizzare determinati procedimenti, una volta era tutto a mano, sì. Tutto a mano, no, tutto quello, esatto, ragazzi, comunque mi sembra che abbia lasciato il gioco tendenzialmente più su PC forse che su console, che era abbastanza diretta come cosa, se non magari. Vabbè, per la questione su console di... hanno sempre insegnato che quando il gioco soffiare. La cartuccia non ti va bene, appunto, esatto, soffi un pochettino, al limite prendi un cotton fioc per un pennellino per togliere un po' di polvere. Io ed è tutto risolto. No, quello però tendenzialmente su PC comunque ha lasciato chi più chi meno delle competenze senza le quali uno magari avrebbe avuto problemi. Stiamo entrando più altro nell'ambito dell'archeologia. No, però occhio ragazzi che ci mancano un quarto d'ora. Della sorella, allora, hanno pure insegnato ai tempi del Commodore 64 a sapere come funziona bene un registratore, no? Con sto Lazio. Vabbè, concedo 10 minuti in più a questa rubrica. Dai, dai Stefano. Siamo comunque al punto grande. Passiamo al successivo. Che videogioco ha determinato un certo periodo della vostra vita e ha mai salvato quest'ultima? Quindi adesso quella, la seconda parte della domanda è abbastanza impegnativa, diciamo, e io rispondo subito che nessun gioco penso che mi abbia mai salvato. No, neanche a me. Però che, cioè, se vi ricordate un gioco in particolare di un determinato periodo. Ad esempio, quando ero piccolo tutti mi scherzavano perché giocavo, non lo so, sempre a Doom, appunto, perché giocavo, ad esempio, mi ricordo che da piccolo ho giocato tutta l'estate a Final Fantasy 6, per dire. Quel gioco lì, magari con le pietre miliari, diciamo, del videogioco della vostra vita, anche recente ovviamente, non c'è bisogno di andare a Prehistoric su Amstrad, però siamo lì. Posso iniziare? Vai. Sarò rapidissimo. Ma va bene. Non c'è un titolo in particolare, ma c'è una piattaforma in particolare che è le console. Diciamo, la mia prima console è stata console inteso come console a CD, perché io ho iniziato col Mega Drive. Console, quelle del trucco, quindi, no? Come? Quelle del trucco, la console, quella trucco, che ti metti davanti allo specchio. Esatto. E io ho iniziato col Mega Drive, però diciamo che poi in realtà la mia prima vera console è stata la prima PlayStation. La prima PlayStation che cosa mi ha insegnato? Che in particolare anche la seconda PlayStation mi ha insegnato che io alla fine voglio una vita tranquilla, come disse Francesco Tricarico, che salutiamo perché ci ascolta. Ci ascolta, sì, ci ascolta sempre. Io sono un suo fan, tra l'altro. Sì. E quindi diciamo che il videogame su console... probabilmente videogame su console comunque mi ha allontanato dal PC e mi ha reso un pochino più passivo verso il media, però io lo ringrazio perché mi ha salvato la vita. È vero, per questo cui è vero, bravo. Io mi ha allontanato, diciamo, da installazioni di Windows, esatto. Da cambi di RAM, perché pure con, pure con Windows, quando i giochi si installavano su Windows non è che c'è un periodo di tempo che ci aiutava molto, perché comunque i giochi sempre su DOS andavano, quindi sì. C'hai ragione, bravo, ottima osservazione. Quindi grazie, volevo ringraziare Kazi Rai e... chi? No, ti ha fatto uscire da... chi cazzè? Chi cazzè? No, io sono d'accordo con lui, A me non c'è un gioco in particolare, ma c'è una piattaforma in particolare, le console. No, il PC, diciamo, invece in realtà, perché un anno mi portai il PC al mare e alla fine dell'estate tutti erano abbronzati, tranne io e il PC. E il PC, chiaramente. Quindi io ho passato l'estate a giocare a FIFA, chiaramente. No, io invece ero al mare. Io invece mi riallaccio per quanto riguarda la questione della portabilità, Simone e anche a Carlo, però io devo ringraziare a Gunpei Yokoi, perché io invece devo sempre chi cazzo è, ci abbiamo fatto pure speciali, ma sì, Nintendo, sì, no? Sì, sì, no, devo ringraziare lui per l'invenzione del Game Boy, perché, e quindi delle console portatili e del moderno gaming anche su tablet, perché per me sin da piccolo, magari che ero abituato l'estate, un mese e mezzo dell'estate a passarlo in un paese dai nonni, oppure fare grossi spostamenti anche con i miei genitori, e comunque in quelle pause potevo diversi giochi, ma mi hanno permesso di non smettere o di rimanere per senza troppo tempo, non posso. No? Di non fracassarti, esatto, la wallera, esatto, in certe, esatto, situazioni, esatto, soprattutto. Sì, sì, sì. E poi lo ricorderò con un periodo molto nostalgico, anche quando tipo magari ti vietavano di, no, ti sequestravano, che so, il cavo di collegamento della console al televisore, no, te ne frega, intanto se andavi in cameretta dove c'avevi il Game Boy, magari ci giocavi pure sotto le coperte, così non ti facevi, se qualcuno entrava in cameretta non ti facevi. Lo che no, ma il Game Boy non era mica retro illuminato, anche se il migliore era il Game Gear, c'aveva pure l'apparecchiatura la stessa con le lucette, sì, per la, no, donna, la migliore è il migliore, almeno mettevi la torcia sotto le coperte e ci giocavi, quello che ho desiderato era il Game Gear con il TV tuner, sì, io ce l'avevo, che cazzata, e il Game Gear in generale potevano solo per mezz'ora o attaccavi, sì, no, così e via i porni su Telelupo, potevi giocarci sotto le coperte ed era una cosa buio, tranquillo, eccetera eccetera, tu ci giocavi, dicevo wow, posso vedere lo schermo. Esatto, erano cose incredibili, anche la televisione, cioè potevi vederti la TV per i fatti tuoi, Telelupo, senza, incredibile, cioè si beveva sei stilo in mezz'ora quella TV, sì, ma era normale, era un cancro. Marco? Io posso dire che il videogaming mi ha salvato dalla televisione. Ah, è questa mica una stronzata, anche se non del tutto, però, perché insomma, no, assolutamente. Io la televisione, hai una cultura più sterminata dal punto di vista delle serie televisive, che esatto. Ma serie televisive è un conto, La parodia, caso, no, il la gioco. Televisione è un'altra, tipo, la barra, io che poi paradossalmente ti ha salvato, cioè ci salva tuttora dalla televisione, nonostante la televisione stessa, ironia la sorte, la continuiamo a usare attaccata ai nostri computer e alle nostre console, no? Io, cioè, infatti ho provato a vedere gli stessi programmi che c'erano magari 10 anni fa, tanti ce ne sono, che c'erano sempre gli stessi, ci sono diverse trasmissioni, e rivedendole poi dico mamma mia che cazzate, ma che bello che videogioco. Esatto. Cioè, ma quindi nessun gioco ti ha segnato un periodo particolare? Se mi citi Fallout mi cazzo, basta Fallout. No, c'era quel gioco, come si chiama? Fallout 3, però. No, Fallout, okay. No, solo Fallout, Cristo. Fallout New Vegas, no? Basta, basta. E poi il periodo Risen 2. No, diciamo che no, c'era pure il gioco di Star Wars su Nintendo 64, Ah, quello è bellissimo. E no, non c'è il periodo Mass Effect. Che particolare che ha segnato, no, poi magari nel punto dopo posso fare delle citazioni, ma questo ecco, allora andiamo avanti, che il tempo stringe, è Biggio. Biggio deve dire la sua, però Biggio. Allora, Biggio veloce, però va bene, noi ci metto un Final Fantasy 10 Ma che schifo, mi ha riavvicinato. Ma non è fratello. Brutto, dai! Cioè, ma il 10 fa. Cioè, proprio. No. Ne abbiamo già parlato anche in altri posti. Vabbè, adesso non so che dire. Gioco bello. Ah, gioco, ma aspetta, il 10 è quello là di quello che gioca basket sott'acqua. No, quello è forse stato l'ultimo Final Fantasy. No, no, tu stai parlando del 9. Sì, è vero, l'avevo. Sul 9 siamo d'accordo. Lo sappiamo. No, no, no, sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Che ricordiamo un po' mi avvicinato a mio fratello in qualche cantata. Maniera ad esempio tramite videogiochi, sai, periodo tutti e due adolescenti, no, quindi eravamo tutti e due per i cazzi nostri, no, però no, sai, è rimasta la passione dei videogiochi, quindi quello lo ricordo in maniera abbastanza importante. E poi sicuramente Mario e Donald di Maui Mallard per Mega Drive, però quello ci ho giocato davvero le ore. E poi sicuramente Metal Gear Solid e il CD coi demo, il primo CD in assoluto della PlayStation 1. E nonché GTA che mi bruciò la PlayStation 2. L'ho dimenticato. No, sono brutte cose. Io per esempio cambiai molte volte la PlayStation 1. Prima per i CD copiati, poi quando era originale, perché comunque, che so, qualche gioco magari c'è bruciato, c'è tutta la console, in mio caso è stato buco. Buona Biggio, io ti concedo l'ultimo punto. Ti concedo, purtroppo. Ti concedo un ultimo punto. Allora, io ti dico: in quale periodo avete smesso di giocare completamente e pensavate di non riprendere mai più? Cioè, nel senso, periodo intendo quanti anni avevate e quando ho scoperto la figlia. E qui possiamo chiudere il podcast. Grazie per essere stati con noi. Complimenti. Buonanotte a tutti. So che ci vuole Luigi Marrone per questo episodio, sarebbe durato 8 ore, però esatto, sarebbe stata una memoria, avrei dovuto troncarlo ad ogni frase. No, ecco, è periodo storico della vostra vita. È anche periodo consolistico, non lo so, periodo PlayStation 1, poi basta per 5 anni. L'ere della nostra vita. Vai, per chi parte? Vai. Guarda, io me lo ricordo ancora, dal gennaio del 2011 all'agosto dello stesso anno, che era praticamente l'anno in cui io decisi di mettermi a dieta e decisi di cambiare la mia vita in qualche modo. E non ci ho rinfacciato sempre, però esatto. No, beh, è stato un periodo molto disturbato della mia, non è stato certo un bel periodo assolutamente. Ma tutti i traumi portano qualcosa. È una cosa assurda. Però devo dire, in quel periodo io proprio ebbi una sorta di rifiuto completamente di quello che era tutto quello che era venuto prima, compresi ovviamente i videogiochi, fino a che poi questo amore risbocciò quando quello stesso anno andai a Colonia per la prima volta con lo staff di Mondo Xbox. Ma c'è che ci sei andato a fase non frequentavi più i videogiochi? Era un momento, per me era un momento di comunione da condividere con i miei amici, non era una cosa che facevo per i videogiochi. Eravamo amici a prescindere, cui è stato più una cosa così. E poi ovviamente, come si dice, da cosa nasce cosa, perché quando vai in una fiera di videogame dove si parla solo di videogame, incontri persone stra mega fissate con i videogame, intervisti persone sui videogame, a quel punto un po' che cominciano a chiederti: ma hai giocato a questo? Hai giocato a quello? Nel frattempo erano passati 7 mesi che io avevo completamente saltato a pie pari. La cosa un po' buffa, diciamo, è stata che in quel periodo i miei colleghi magari venivano da me e dicevano: senti, ma è uscito questo, me lo consiglio? Dicevano: guarda, io non gioco più. E mi dice: dai, non di cazzate, dai, che lo sapevano, io ero il mega nerd dei videogiochi, chiunque voleva comprarsi una console, qualunque videogame veniva da me a chiedermi: ma è bello, ma com'è, come non è? E non credeva nessuno al fatto che io non giocassi più, sembrava quasi una scortesia che io gli stessi facendo a queste persone. Vabbè, sei un fa' stronzo, sta a tirare. Invece no, io avevo veramente avuto un rifiuto. Ma penso che sia anche fisiologico, probabilmente. Sì. Marco? Io dal 800 XL al Nintendo 64, quindi insomma c'è la... Da 800 ammazza, miei coglioni, sono passate 3 generazioni. Ma anche 4, no, praticamente. Scusa, nel mentre cosa hai fatto? Niente, ho imparato a fare tante cose, a cantare, ballare. Adesso ho lasciato, sai, per quel brutto infortunio che ho avuto, procedurale. Quello, sì, sì, sì. E poi mi sono portato, procedurale. Che provoca un dolore esponenziale. Sì, quindi ho smesso e ho ricominciato a giocare con Nintendo del 64. No, più che altro non mi andava di... Cioè, io ero un bambino... che si prostrava davanti al dio denaro, dicevo non posso chiedere ai miei genitori di spendere milioni e milioni di vagonate di ori per comprarmi i giochi o di tappi, anche se no mi picchiavano. E allora andavano al negozio, se non mi faccio picchiare, certo. E quando ho cominciato a lavorare mi sono comprato le cose per conto mio. Hai fatto bene, bravo. E io okay. No, c'è stato un periodo veramente che mi sono allontanato, che è stato probabilmente anche quello un po' dell'adolescenza, no, proprio della pubertà, insomma. Vabbè, quando sono diventato, insomma, la fregna, insomma, quello che ho detto prima, cioè nel senso, quando ho cominciato ad avere le mie storie, ma come ho detto, io ho avuto veramente diverse tappe nella mia vita, ho fatto veramente un po' di tutto, quindi dal punto di vista sportivo, politico, tipi di giochi, tipi di comitive, tipi anche di brigate, no, perché insomma c'è stato un periodo in cui ne ho combinate veramente tutti i colori, quindi con le famose brigate rosse, con le brigate, oh, con le brigate rosse, ma no, sì. Sì, sì, sì, ho fatto di tutto nella mia vita. Ricordate quella bomba? Ho fatto. Sono stato io, quello che ha telefonato. Se io arrivo a troverete il. No, vabbè, non si scherza su queste cose. Infatti, no, diciamo un che po' non tristina. Casa. No, io non dirò niente. No, vabbè, cioè, nel senso, vabbè, pure Fantozzi ha scherzato quando faceva. Sì, sì. Fantozzi è lei, com'era lui? Sì, gli telefonava, c'ho una bomba. No, vabbè, comunque, cioè, appunto, ho avuto tante fasi nella mia vita. C'è stato un periodo veramente, forse anche un buon 4-5 anni probabilmente, in cui poi ho recuperato chiaramente, perché comunque. Il mondo del PC e poi, ecco, forse ecco, la PlayStation 2, ho detto appunto, mi ha riavvicinato, ma già la PlayStation 1, perché io comprai la PlayStation 1 quasi a fine generazione, perché fu uno sfizio che facemmo con un amico mio, ce la comprammo in due, vabbè, ci giochiamo a casa mia e ci giochiamo a casa tua, ce la tenemmo una settimana per uno, ma la pagammo una cazzata, già craccata chiaramente, quindi non vi dico praticamente i sei secchi dei CD che sono arrivati, e abbiamo giocato dall'in poi a tutto, compreso appunto il primo Silent Hill, che ti devo dire la verità, in bianco e nero, perché era quello giapponese, giapponese, quindi il mio amico andò subito a comprare il modulatore intercooler, quello che serviva per vedere a colori, lo vedemmo a colori, altrimenti io penso che sarebbe stato un giocabile. Salutiamo la guardia di finanza che ci sta ascoltando. Vabbè, io penso che se viene un finanziere da me e mi viene a dire, ah, però lei ha dichiarato di aver giocato, e io me lo guardo in faccia e dico, tu giurami sulla tua esistenza che non hai mai giocato o non hai mai avuto un software pirata in vita tua in Italia, te sputo in faccia. Pizzi, puoi stare tranquillo, c'è la prescrizione, questa è la sovversiva. Beh, no, esatto, perché poi c'è la parte sovversiva delle Brigate Rosse, chiaramente, contro le guardie infame. Passava CD pirata dalla PlayStation. No, e questo, insomma, ci sono stati vari periodi, e sì, c'è stato un periodo anche abbastanza ampio, di cui non rimpiango assolutamente, perché il bello probabilmente del modo in cui ho affrontato la vita, che anche negli errori gravi o meno gravi che ho commesso, comunque ho tratto sempre delle conclusioni, ma non ho mai rimpianto niente. Insomma, se potessi rifarei probabilmente. Pensa che da trarre delle conclusioni ti sei messo a fare di quelle dove non traiamo conclusione neanche se ci si mettono davanti a un plotone di esatto, che la trasmissione è meno concludente, che però lo diciamo, e io qui mi guardo Giuseppe Saso in faccia dicendo, guarda, che è vero che ecco, probabilmente noi non saremo quelli che fanno proprio tanta cultura videoludica, però mi pare che siamo rimasti tra i pochi che ancora fanno podcast sui videogiochi, insomma, quindi, ma non lo diciamo, diciamolo con compiacimento, esatto, non lo diciamo, non lo diciamo soprattutto perché questa è l'ultima puntata di TVL. Io siamo una mano ferro. No, vabbè, smucinarci, diciamo, sì, infatti. Biggio, a te concludi questo osservatorio. Siamo già andati oltre. Ma Peppe, no, sì, un attimo, adesso conosco Peppe. Tu non hai mai avuto un periodo. E io, per la verità, il periodo in cui ho staccato completamente, no. Paradossalmente, ho avuto tanti periodi in cui c'erano gli altri che mi dovevano dire di smettere. Staccati da quel coso. Basta. No, sì, soprattutto per esempio anche con. gli anni di studio ovviamente a casa dei miei, in cui c'erano momenti magari dove bisognava comunque dedicarsi anche ad altre cose, tipo la scuola, eccetera. E quindi praticamente venivo minacciato. Staccaggi comunque di prelazione della console o del cavetto, no? Prelazione di connessione al televisore, perché altrimenti. Ancora peggio avendo tu un padre, come dire, capace, cioè, insomma, cioè uno, sapeva, è uno quindi. Che esatto, che ne sapeva, non gliela potevi imbastire, insomma. Esatto. Quindi io velocemente ho avuto un periodo abbastanza breve, senza un motivo preciso, diciamo periodo PlayStation 2 presa non al lancio, un po' dopo, pagata a rate, cioè ho reso i soldi a mia madre praticamente, e dopo che si era bruciato, cioè già durante la PlayStation 2 ci ho giocato molto all'inizio e poi lentamente ho proprio abbandonato i videogiochi sino alla in realtà poi a qualche anno fa, dove sì, avevo un DS, però ero sempre un giocatore abbastanza distratto, ecco, cioè non mi avevo smesso di informarmi più che altro, mentre prima invece ero proprio... Ah sì, anche quello anch'io, sì. Cioè giochicchiavo così e colà, comunque i videogiochi mi piacevano sempre, ero sempre interessato, però non mi informavo più in nessuna maniera, né ero interessato ad avere, non lo so, l'ultima console appena uscita, dirà che figata, eccetera, eccetera. Sì, dicevo che figata, eccetera, eccetera, però... Boh sì, aspetto altri 2 o 3 anni, mettiamola così. E lentamente poi ho iniziato cautamente con una console che dovrebbe farti passare la voglia di giocare ai videogiochi, cioè un Wii. Grazie ai podcast di videogiochi in realtà. Il podcast principale penso che sia stato quello del Tentacolo Viola con Dave, che saluto, perché ero convinto che fosse un podcast su retro gaming, vedendo, l'avevo detto 300 volte. Sì. Stefano, ti sei salvato in corner, perché se ne avessi pronunciato altri a quest'ora si muore. Interrompiamo le trasmissioni per problemi tecnici. Quello lì di multiplayer sarebbe più o meno in contemporanea. Sì, anch'io ascoltavo quello. Io pure, sempre. Sì, sì. Che adesso non viene più realizzato praticamente, ma a suo tempo era abbastanza, era molto seguito. Comunque, loro due. Perché lì ho iniziato, ho detto, ma sai che c'è, ma interessante, ho finito, ma sì, dai, compro un Wii perché almeno ci posso giocare in gruppo, così eccola. E nel mentre avevo sempre World of Warcraft, quindi comunque avevo un po' ripreso i videogiochi, ma ho un videogioco, quindi non ai videogiochi. E poi evidentemente ho rivenduto il Wii per prendermi una 360, perché ho detto, questa console qui è all'acqua di rose, non, cioè sentivo lo spirito hardcore che dentro di me ruggiva. E così ho ripreso, sino ad arrivare a prendere la PS4, non dico al lancio, ma quasi, cosa che grazie insomma un po' anche al fatto che chiaramente lavorando potevo pagarmela io quei soldi miei quando volevo io, mentre invece prima dovevo aspettare, chiedere, eccetera, eccetera. Uscito quello, ho detto, ma sì, dai, per una volta non mi prenderò la console 18 anni dopo, di usata, di terza mano e così via. E niente, e quindi questo è stato un periodo breve, ma c'è stato anche per me un periodo refrattario, ma non dovuto alla figa né a cose particolari, cioè era proprio... Beh, ma non dirlo con orgoglio. Disinteresse così. No, ma si sa che è una cosa brutta quella, purtroppo. Io, prima che lanciate il prossimo stacchetto, vorrei solo a questo punto tutte le varie domande che ci siamo... i dubbi che ci siamo posti... Volevo come sempre invitare gli ascoltatori a dirci, insomma, raccontarci un po' gli spaccati della loro vita, magari appunto scrivendoci poi nei commenti, magari offrirci anche nuovi spunti di discussione, esatto. Pure, certo, comunque, è chiaro. Dateci feedback, fateci insomma sapere che cosa ne pensate e quali sono state le vostre il vostro rapporto con i videogiochi. Fateci sognare. Va bene, io esatto. Penso che abbiamo detto sì. Mi dispiace veramente perché questo era un tema che probabilmente non meritava di essere incastonato all'interno del nuovo format di DVL, probabilmente non meritava. Ma in realtà meritava di essere forse approfondito o forse suddiviso magari in più episodi, nel senso neanche un podcast vecchia maniera, esatto, di probabilmente perché c'è perché io adesso ripensandoci ci avrei veramente milioni di cose da dire possiamo riprendere esatto, e probabilmente è quello che faremo, insomma, quindi a questo punto lanciamo questa cosa di nuovo, proponiamo una nuova puntata che non faremo mai come al solito, però è bello perché noi non diamo soluzioni. Ma mi pare che negli ultimi tempo le puntate che abbiamo annunciato le abbiamo fatte, quindi non discreditiamoci da solo, non abituati, fateci l'abitudine a non farlo, è chiaro. A questo punto io vi ringrazio, insomma, per questa bellissima discussione. Sono costretto a lanciare, anche se con grande onore e grande piacere, la prossima rubrica. Cari amici di DVL, appassionati di effetti sonori e doppiaggio di tutte le età, ben trovati al secondo episodio della mia rubrica Passione Sound Design. Ebbene sì, anche oggi vi condurrò in un viaggio. Un viaggio attraverso lande post-apocalittiche dove morte e disperazione sono sempre dietro l'angolo. Quindi caricate le armi, equipaggiate le maschere antigas e seguitemi in un'analisi del comparto sonoro di The Last of Us. The Last of Us è un titolo di genere action survival horror in terza persona, realizzato dal talentuoso team di sviluppo Naughty Dog, che ha sede a Santa Monica, nell'assolata Los Angeles. Prima di parlare del gioco, però, facciamo un po' di storia. I ragazzi di Naughty Dog sono delle vecchie conoscenze della scena videoludica fin dagli anni Ottanta, ma le luci della ribalta per loro si accendono solo nel 96, grazie a Crash Bandicoot, indimenticabile platform per PlayStation. Crash, Crash, Crash, perché devi ficcare sempre il naso negli affari miei? Nel tempo i titoli targati Naughty Dog si sono sempre distinti per l'ottima fattura artistica e tecnica. Titoli come Jak and Dexter, altra importante saga videoludica per PlayStation 2, che ha proposto in tempi non sospetti dei personaggi carismatici, gag esilaranti e un doppiaggio italiano che per il periodo storico in cui è stato lavorato potrei definire coraggioso. Eccone un esempio. Ragazzi, se brucia! Te l'avevo detto che non dovevamo venire qui, perciò... Che c'è? Ma la maturità videoludica per Naughty Dog arriva solo nel 2007, anno in cui fa la sua comparsa sugli scaffali Uncharted, Drake's Fortune, il primo capitolo della fortunata saga per console di casa Sony che abbatte definitivamente i ponti del genere platform su cui il team Naughty Dog aveva raggiunto vette di eccellenza. Attenzione! In un susseguirsi di sparatorie, scalate ed enigmi, la saga di Uncharted propone un protagonista affascinante, scaltro e ricco di carisma, Nathan Drake. Ah, per l'amor di Dio. Un novello Indiana Jones che nella sua versione originale viene interpretato da Nolan North, mentre la sua voce italiana viene affidata a Matteo Zanotti. El Dorado, the Golden Man. Sully, it wasn't a city of gold, it was this. Ed è proprio partendo dalla saga di Uncharted che il team di sviluppo ha acquisito il know-how necessario a lavorare su un prodotto ancora più maturo come The Last of Us, titolo uscito nel 2013 per PlayStation 3 e successivamente rimasterizzato in alta definizione in occasione del lancio di PlayStation 4. Anche in questo caso il titolo si distingue per la sua fattura artistica, per i suoi personaggi complessi e per le ambientazioni evocative. Ci propone il viaggio di Joel e Ellie, due sopravvissuti all'epidemia di Cordyceps, una spora fungina tossica che rende gli esseri umani dei pazzi assetati di sangue. Per quanto il concetto sembri fantascientifico, il tema di The Last of Us è basato su una reale scoperta documentata dal National Geographic del fungo Ophiocordyceps, le cui spore infettano il cervello degli insetti rendendoli letteralmente zombie. Un'altra città, un'altra zona di quarantena abbandonata. La particolarità di questo fungo, sfruttata anche in The Last of Us, è che le spore col passare del tempo eruttano fuori dal cranio dell'insetto ospite, a dir poco terrificante. Tecnicamente parlando, ci troviamo di fronte a un titolo molto ben fatto e dal sound design altrettanto elaborato. Trovandoci in un'ambientazione post-apocalittica, in un mondo in cui le città sono disabitate e in cui la natura ha preso il sopravvento, il comparto audio rappresenta un valore aggiunto all'esperienza del gioco. In questo, The Last of Us eccelle, proponendo degli ambienti sonori che restituiscono appieno la desolazione, la pericolosità delle strutture fatiscenti e pericolanti, e che ci inquieta ad ogni passo sottolineando gli echi, gli scricchiolii e i rumori disumani delle minacce nascoste. Sembra banale, ma anche il silenzio ha pesato molto sulle scelte di sound design. Infatti, molto spesso ascolteremo i personaggi camminare o chiacchierare all'interno di ambientazioni completamente silenziose, fattore che enfatizza il feeling cinematografico dell'opera. È tutto ok? Sì, sto bene. Un ottimo lavoro, ad esempio, è stato svolto sul sound design delle armi, specie quelle da fuoco, particolarmente orientato sulle medio-alte frequenze e per questo dal sapore più assordante e realistico, che si contrappone invece a quello dei colpi a mani nude all'arma bianca, ricco di frequenze molto basse, riprodotti con un volume più alto rispetto a quello del mix generale. Tutti espedienti tecnici che ne enfatizzano la potenza e la brutalità. Ennesimo plauso va fatto ai sound designer per aver creato il verso dei clicker, ovvero esseri mostruosi resi ciechi dall'eccessiva esposizione alla spora fungina e che per questo hanno sviluppato un peculiare sistema di localizzazione acustica. Quando incappiamo in queste creature, sentiremo dei versi simili a dei click, come questi. Il team di sound designer ha tratto differenti ispirazioni per creare questo particolare suono. Sebbene in sostanza si tratti di una rivisitazione del radar biologico dei pipistrelli e dei delfini, non è composto da alcun suono animale. Infatti, scomponendolo in singoli effetti sonori, possiamo trovare solo versi gutturali umani ed effetti di schiocchi di lingua. A detta dei sound designer, questi ultimi sono stati gli unici suoni a subire dei trattamenti di variazione di tonalità. Una volta assemblati gli elementi, comunque, è possibile dar vita al suono angosciante dei clicker. Il team audio ha potuto creare asset così originali anche grazie alle vecchie tecnologie. Infatti alcuni ambienti sonori sono stati ricreati completamente grazie all'ausilio di vecchi sintetizzatori analogici. Hey, Brian. Why the hell are we smuggling an infected girl? I'm not infected. No? Il doppiaggio in lingua originale del titolo è ottimo. Anche questa volta ritroviamo il buon vecchio Troy Baker che interpreta Joel, mentre Ashley Johnson, che alcuni di voi forse ricorderanno come la bambina paffutella di genitori in blue jeans, interpreta Ellie. Nonostante la complessità dei personaggi, entrambi gli attori hanno svolto un lavoro eccellente, che ascoltiamo. Hey, look, about Tess, I don't even know. Here's how this thing's gonna play out. You don't bring up Tess, ever. Secondly, don't tell anybody about your condition. They think you're crazy, they'll try to kill you. Nel cast americano troviamo anche l'immancabile Nolan North, che interpreta lo psicotico David. Name's David. This here's my friend James, from a larger group. Women, children. They're all very, very hungry. L'edizione italiana del gioco è stata curata a Milano. Il protagonista, Joel, è stato affidato a Lorenzo Scattorin, voce di Kenshiro della nuova saga animata di Hokuto no Ken e di altre numerose produzioni videoludiche, tra cui Mass Effect, in cui doppiava Keidan Alenko. Nel ruolo di Ellie c'è invece Gea Riva, al suo esordio nel doppiaggio di videogames. Scappare in quel modo, metterti in pericolo, sono gesti stupidi. Ammetti che è dall'inizio che cerchi di sbarazzarti di me. Cos'è che ti preoccupa tanto? So badare a me stessa. Quante volte ce l'abbiamo fatta per miracolo? Beh, finora ce la siamo cavata bene, no? E ora te la caverei anche meglio. Nel cast italiano figura anche un'altra voce ben nota ai videogiocatori, quella di Claudio Moneta, che doppia uno dei comprimari dell'avventura, Bill. Vi suggerisco di prendere tutte le scorte di cui pensate di avere bisogno. Mentre il personaggio di David è ad opera di Felice Invernici. Mi chiamo David e questo è il mio amico James. C'è un gruppo più grande, con donne e bambini, tutti molto molto affamati. Il doppiaggio della versione italiana è molto ben realizzato, anche se, cercando il pelo nell'uovo, in alcuni momenti del gioco la voce italiana del protagonista Joel non restituisce appieno la stessa pesantezza graffiante di quella di Troy Baker della versione originale. Standing ovation invece per Gea Riva, che ha fatto un lavoro eccellente su Ellie, ricalcando appieno la personalizzazione di Ashley Johnson. Ehi, non dovevi dormire? Ok, so che non si direbbe, ma questo è interessante da leggere, c'è solo un problema. Guarda qui, continua, puntini. Odio la suspense. Un fattore importante che ha pesato favorevolmente sulla complessiva qualità del doppiaggio italiano di The Last of Us è stato il poter doppiare la maggior parte delle scene con l'ausilio delle immagini. Infatti, come afferma Scattorin in un'intervista, il cast dei doppiatori, durante le sessioni di incisione delle voci, aveva accesso alle immagini, seppur ancora incomplete, della motion capture presenti nelle scene di intermezzo del gioco. Infine, la colonna sonora, minimalista ma molto efficace, ad opera del grande compositore argentino Gustavo Santaolalla, che grazie al suo charango e a pochi altri strumenti ha saputo creare uno dei temi musicali più evocativi mai sentiti in un videogame. Questa puntata di Passione Sound Design finisce qui. Io vi do appuntamento come di consueto al prossimo episodio. Continuate a seguirmi su Dietrologia Videoludica. Allora Carlo, io ti faccio ancora una volta i complimenti per Passione Sound Design, anzi te li faccio doppiamente perché rispetto alla prima puntata devo dire che questa tua disamina di The Last of Us è più tecnica, più approfondita, quindi è un po' quello che probabilmente si vuole ripromettere questa rubrica e che non è stato probabilmente la prima volta, insomma. Sì, qua c'era sicuramente più materiale su cui lavorare dal punto di vista del sound design, del doppiaggio, più del sound design a dire la verità che del doppiaggio, come invece è successo con Shadow of Mordor, quindi... Però ecco, volevo invitare, diciamo, a tutti quelli che hanno apprezzato, insomma, hanno ascoltato e si sono anche, insomma, rivelati interessati al format di eventualmente di contattarci o tramite DVL o a livello anche, se volete, personale su Facebook, sui social, e magari di richiedere un determinato genere, un determinato titolo su cui, insomma, ne volete sapere di più. Da quel punto di vista io sono diciamo sempre bene o male disponibile per poter parlare di qualcosa. Ovviamente nel momento in cui c'è materiale, in cui è possibile reperire del materiale, e magari nel momento in cui c'è una tematica, diciamo, interessante alla base. Certo. Per cui se avete consigli, considerazioni, osservazioni, io sono felicissimo, quindi sentitevi liberi. Già hai raccolto, insomma, un discreto consenso. Sì, infatti colgo l'occasione anche per salutare coloro, insomma, i quali hanno commentato su Facebook, sì. Multigiocatore. Grazie per la linea, ragazzi. Io sono Cesare Giraldi, sono qui per registrare una rubrica sul multiplayer e ho qui di fianco il mio amico Maki. Ciao a tutti, il mio nome è Maki Cazzè, ma per gli amici solo Maki. Ok, ora che hai detto questa buffonata siamo a posto. Sono qui per parlare del multiplayer perché recentemente abbiamo organizzato noi due con altri amici un LAN party. Ci siamo procurati quindi due TV, due Xbox 360 e due PS3. Perché sono dei barboni, se no si possono fare anche con PS4 e Xbox One. Esatto, ma non avendo, sì. Non avendo neanche il grano per comprarle. Chiusa parentesi. Ok, e ovviamente anche il cavo di rete, perché sennò non funzionava giustamente nulla. Giustamente, per collegare le due console, l'una all'altra. Chiaramente. È stata un'esperienza molto interessante, questo si può dire. Più che altro una cosa unica, perché al giorno d'oggi non si fa quasi più. Sì, è in una genere, cosa molto rara. Sì, questo genere di connessione viene spesso snobbata perché... Un po' perché effettivamente è un po' più scomoda rispetto a una cooperativa locale, un po' perché in genere giocando da soli si preferisce giocare online, e poi è un po' scomoda perché in effetti ci vogliono due console, due TV, due versioni uguali dello stesso gioco, per cui non tutti se lo possono permettere. Però, insomma, per chi riuscisse a organizzare una cosa del genere è molto molto divertente. consigliabile, senza consigliato, dubbio. Sì. Una cosa nuova, cioè nuova, una cosa vecchia, ma diciamo nuova perché non viene mai fatta, mai attuata in tempi moderni. Diciamo che è una cosa molto, il concetto di videogioco è collegato direttamente al multiplayer, al multigiocatore, alla condivisione. Però tant'è vero che le prime console, le Pong console, sì, Pong console, mi pare si chiamino, giusto? Sì. Quelle che avevano solo, sì, Pong come, esatto, gioco, esatto, sì. Avevano i due controller perché appunto potevano, sì, essere fruite solo in questo modo. E, però oggi come oggi si tende a privilegiare più la parte online, la cooperativa online, a discapito di quella offline di un gioco. E diciamo il System Link è un po' la espressione massima della cooperativa locale, è un po' una sorta di festa che si fa una volta ogni martedì papa per celebrare il videogioco, sostanzialmente. Beh sì, giustamente la cooperativa online è l'ultima tecnologia per cui attira molte più persone e poi appunto, come già detto, è più facile da organizzare. Giusto, quindi cosa abbiamo giocato? Abbiamo giocato Halo Reach e Call of Duty Black Ops. Black Ops, sì. Quindi per quanto modalità zombie. Esatto. Che chiaramente era più divertente in queste cose. Ovviamente. Per Halo Reach abbiamo giocato 2 contro 2, quindi un PvP. Cioè... Sì, una partita personalizzata, una partita privata, e in cui si ha il completo controllo, per cui vari spawn, le armi da utilizzare, i tempi di gioco, poi i punteggi, ci siamo anche messi, eccetera, d'accordo dopo un po' di tafferugli, sì, su delle armi da non utilizzare, sì. Praticamente abbiamo eliminato tutte le armi più potenti per evitare di semplificare un pochino il gioco, ecco, perché lo usava solo Cesare, quindi... Esatto, perché lo usavo solo io e non è vero. Secondo, sì, me, secondo me anche qualcun altro le usava. Comunque anche Cesare le usava, è vero. Io con me stesso, ero in squadra con me stesso. Comunque l'altro gioco invece che abbiamo usato è appunto Call of Duty Black Ops in modalità zombie, quindi cooperativa in 4, modalità super consigliata e consigliabile, estremamente divertente, però da giocare minimo direi in 2, di sicuro non, sì, da solo, perché da, no, solo, da non solo ha senso, è troppo difficile, abbastanza anche noioso, sì, esatto, anche difficile perché nessuno 4... ti guarda le spalle ed è praticamente possibile, sì, in 4 soprattutto nei livelli più avanzati è, secondo me, uno dei giochi più divertenti in assoluto, e lo dice uno che odia quasi Call of Duty, per cui se lo dico io vi assicuro che è veramente divertente. La mappa era, tra l'altro, Der Rise, una cosa così. Comunque quella ambientata, quella è il remake o semplicemente la trasposizione di quella di World at War. Esattamente. Sì. Che è anche abbastanza grande. Infatti, no, è veramente bella, è una mappa incredibile. Poi c'è un trucchetto di mettersi praticamente in cima alle scale e sparare ogni cosa che si muove, e quello fa arrivare anche a turni improbabili, tipo trentesimo e così. ok, quindi... che cosa si può dire su multiplayer? Possiamo dire che per quanto ci riguarda noi preferiamo il multiplayer locale di sicuro rispetto a quello online, perché la sensazione di avere qualcuno vicino, comunque lo scherzare su un gioco eccetera, è impagabile. Anche avere qualcuno in cuffia online non è la stessa cosa, averlo vicino è diverso, comunque, cioè è una sensazione proprio di... è una sensazione particolare, purtroppo è snobbato in parte dagli sviluppatori per ovvie ragioni, perché per quanto riguarda la coop locale c'è bisogno di una sola coppia del gioco, mentre per quanto riguarda la coop online chiaramente a loro fa comodo che qualcun altro lo compri. Esatto, esatto, per giocare insieme, oppure anche per esempio se giocassimo, vabbè, anche su PS4 in realtà stavo pensando, se noi giocassimo su Xbox 360 online avremmo bisogno non solo di 2 copie del gioco ma anche di 2 gold, la, esatto, stessa cosa tra l'altro adesso con PS4, non PS3 perché è obbligatorio il plus. Sì, giustamente, tra l'altro, infatti, quindi io direi, dato che sennò rischiamo di andare lunghi con questa rubrica, quali sono i giochi che ti sentiresti di consigliare, direi un gioco per la cooperativa locale, che ti sentiresti di consigliare? Locale io consiglio moltissimo Portal 2, perché ha una modalità multiplayer locale, secondo me fantastica, tra le migliori in assoluto, ha una storia parallela a quella principale, per cui già di per sé è gradevole da rigiocare come gioco, ha dei personaggi anche ancora diversi rispetto alla modalità principale, e poi è piuttosto diversa perché è una cooperativa vera e propria. È una serie di sfide, chiaramente tutti conoscono Portal, da affrontare insieme, per cui entrambi i giocatori devono svolgere delle azioni in un determinato momento, in un momento preciso, oppure coordinarsi, spostarsi uno in una zona, l'altro nell'altra, e combinare i due portali. Poi chiaramente con questo mondo di portali il gioco è veramente pazzesco, incredibile, incredibile. Si conferma, perché alla fine abbiamo giocato insieme, bene o male, sì. La maggior parte di questi giochi cooperativi li proviamo insieme. Portal 2 l'abbiamo completato tra l'altro qualche giorno fa, sì. ed è un gioco incredibile, cioè è uno dei pochi giochi che comunque ti fa spremere le meningi e non è solo uno spara spara senza alcun scopo. Sì, esatto, non è un semplice sparare insieme, andare in giro insieme come molti giochi, che comunque divertenti, però è una vera e propria collaborazione, un gioco di squadra vero e proprio. Io e un altro gioco, okay, per la cooperativa sempre in split screen, che ti senti locale di consigliare ai nostri, sì, ascoltatori, è Left 4 Dead. Ma tutte e due, direi, sia l'uno che il due. Sì, alla fine come format sono identici. Il 2 è chiaramente più sviluppato, con mappe. Aveva un paio di mostri speciali in più, non ricordo di preciso, però c'erano un paio di aggiunte. Sì, ci sono poi ovviamente mappe nuove che comunque fanno, sì, tantissimo. Mappe nuove, gli zombie poi divertentissimi, con queste ondate veramente folli di zombie, centinaia, migliaia di zombie tutti insieme. E passiamo, direi, alla cooperativa online. Invece vuoi online, dire qualcosa? Sì. Ti senti anche di consigliare anche qua un altro gioco ai nostri, sì, ascoltatori? Anche qui Borderlands secondo me la sa lunga, perché i anche giocatori qua, possono il 2, tutte e due, ma stessa storia di Left 4 Dead, sono molto simili, anzi quasi identici. Il 2 anche qui è un po' più sviluppato, con mondi più grandi, armi più nuove, più innovative, abilità anche qui più recenti, più divertenti da usare. E è molto divertente perché un giocatore può entrare nella partita di un altro e questi chiaramente possono andare avanti insieme, e in un gioco come Borderlands, pieno di nemici, con mondi molto aperti, secondo me uno dei migliori in assoluto, almeno tra quelli che ho provato, ecco. Ok, perfetto. Io Borderlands non l'ho quasi provato, ho giocato pochissimo, quindi mi fido del tuo giudizio. Benissimo, il nostro tempo è scaduto, direi che possiamo salutare, quindi saluta pure Maki. Ciao, ciao a tutti. Saluto anch'io e niente, ci sentiamo la prossima volta. Linea allo studio. E ringraziamo anche, insomma, i due Girardi che ovviamente ci hanno fatto questo, hanno introdotto, insomma, parlando un po' genericamente del multiplayer. Poi ovviamente ci saranno occasioni dove parleremo in maniera un po' più specifica, chiaramente. Allora, siamo, direi, lanci tu la rubrica dove c'è il vecchio che ci scrive. Come no, Dietrologia videoludica. Vai col jingle. Cara filosofia dietroludica. No. Carissima videologia dietroludica. No, non è così, no. Spettabile dietrologia videoludica. Vabbè, va. È uguale. Allora, incredibile ma vero, ma questa settimana ci hanno anche scritto, insomma, qualcuno. Non tanti, però sempre un po' di più, quindi vuol dire che il pubblico si è riaccorto che dietrologia videoludica era iniziata. Diciamo dietrologia videoludica che qualcuno in un gruppo ha definito sempre piacevole. Mi fa piacere che siamo intrattenimento di sottofondo praticamente. Però a noi ci fa piacere. E allora Marco, no, facciamolo fare a Stefano. Stefano, ci sono quindi qualche messaggino dei nostri amici utenti? Ma le sfumature? Volete una sfumatura veloce veloce? Ah, la facciamo dopo la posta a sto punto. Dai, dopo la posta, va bene. Intanto farò una toccata e fuga. Ci chiudiamo la puntata e poi lanciamo i geloni. Esatto. Vai. Qui ci dicono grande Burigana e grande attesa per il ritorno dei fantastici Geronto Gamers. Veramente, chi è questo che l'ha detto? Marco Paglia. Marco Paglia, grande Marco, è un ritorno. Marco Paglia, l'altro che non scriveva i nostri podcast. Grazie. Ha mandato anche un messaggio privato. Attenzione, che ci ha scritto? Aspetta, adesso lo recupero. Poi, tu tanto a leggi. Bene, poi Danilo Ciuanchuo ci dice: bellissimo lo speciale di Burigana. Questo speciale del Burigana l'ho lanciato così. Lo so, raga, però. No, io ringrazio tanto, veramente. Mi emoziona tanto questa cosa. Ti emoziona, dai. No, mi emoziona perché comunque è stata un'idea così. L'idea è bellissima ed è fatta bene. Però tu sei un po'. Sono onorato. Vaffanculo, ti è piaciuto? Se non ti è piaciuto, ti piace uguale. Quella è. Io l'ho ringraziato. Ci tengo a. Ci permetto che li ho ringraziati, insomma, anche di persona. Su Facebook li ho mandato anche qualcosa di soldi così per via PayPal. Li ha ringraziati tutti sulla pagina Facebook. Aspetta la gente sotto casa per menarla. Esatto. Carlo dice per ringraziare. Come dice il buon Marrone. Per cui no, grazie ancora ragazzi, e insomma, se vi piace chiamatemi, se vi piace insomma continuate a dire che vi a piace. Sostenere, a fare, a dire, insomma, quindi grazie. Vi ricordiamo a questo proposito, giusto perché Carlo non lo ha detto, che questi mini episodi, che per noi sono una rubrica ma in realtà sono mini episodi di Passione Sound Design, dopo qualche giorno dall'uscita della trasmissione, quindi dall'uscita del podcast, li trovate sul canale SoundCloud di Carlo Mix, giusto? Esatto. Che tu non hai detto questa cosa. SoundCloud Carlo Mix 79 il mio canale. Comunque non c'è bisogno di andarsi a inerpicare sui canali SoundCloud, potete venire direttamente anche sul sito. Sul mio blog o sul sito di dietrologia, dove che si inclina, forse è la presenza che fa sentire. No, però ecco, insomma, il mio blog personale carlomix.blogspot.it, lì trovate le singole puntate scorporate e potete ascoltarle. Perfetto. come puntate stand alone. Ci dobbiamo ancora accordare sui tempi di esclusiva, perché insomma però va bene, l'esclusiva temporale di mezza giornata per Carlo Burigana. Va bene così. Forse ci faremo anche una puntata. Esatto, su questa cosa. Poi altri messaggi. L'innominabile. Chi è? Bella puntata. Marco D'Amore. Mario D'Amore. Mario D'Amore. L'innominabile. Mario D'Amore, il nostro amico tedesco. Tedesco. Il nome è tedesco, sposato con Teteschi. Bella puntata, ma il gioco che c'è in Dog Rome, ovvero Marco Gualdi, esatto, ha recensito, era davvero o era un Geronto Gamers? Davvero la gente paga $19.99 per una cosa pre-alfa? Sì. E a questo punto gli diciamo: non hai ascoltato la puntata precedente, voglio dire. O vatti a giocare a Unity, no? Unity, o vatti a giocare Assassin's Creed di Unity, alla fine. C'è gente €70 per gioco. Più, in bed. Marco, ma il gioco alla fine era davvero? Era un gioco davvero. Era un gioco assolutamente davvero. Ora diciamo, non per citare un gioco che magari si può trattare prossimamente, ma. Questo costa, che in early access costa, l'accio al mondo ti costa tipo qualcosa come $39.99. Me coglioni! C'è da dire che però vale $39.99. No, vedi che è usato quel software che è tuttora come tu. Interessante. Allora lo regaliamo, gli diamo il codice pirata Biggio, così ce lo dice lui com'è questo. Ma non gioco. Mi piacciono i giochi di corsa, neanche a me. A te ti piacciono Carlo Mix? Ma io non sono capace, quindi no. Cioè sì, mi piacciono esteticamente, ma non ci sì, anche a me piacciono, ma sbatto ovunque. Sì, tu Marco non niente. No, io mi piace tantissimo i giochi di corsa, i primi 5 giri, poi mi rompo le palle. Perché io mi fermo a vedere gli incidenti appena partono le macchine, come tutti quanti. A me ci piacciono i giochi di sparare. Poi i giochi di destri. giochi di destini, destini. Poi basta, c'è la fine. Basta. Poi basta, sono finite. Basta, finite. Perfetto. Allora, a questo punto noi ringraziamo tutti, vi ricordiamo, ringraziamo. Aspetta per... che devo sfumare. Lo so, tranquillo. Okay. Ringraziamo per i messaggi, vi invitiamo sempre anche a scriverci su dietrologiavideoludica@gmail.com, suggerendovi comunque, mo, al di là di tutto, a noi i messaggi sulla pagina ci fanno piacere, quindi mettete mi piace anche sulla pagina. Però se vi dovesse venire comunque in mente di mandare dei file audio, insomma, magari state in macchina, non sapete, spingete rec col telefonino, insomma, veramente oggi non ci vuole assolutamente niente, anche dei contributi audio a noi ci fanno piacere, magari ci date anche degli stimoli per piccole discussioni, o possono addirittura nascerci degli episodi se dite qualcosa di particolarmente intelligente. Detto questo, a questo punto noi lasciamo un attimo la parola al buon Stefano Biggio, lanciandogli l'apposita gingolazione. Di Biggio. Ecco qua. Allora, sarò veloce. Perché mi preme farlo? Perché sono pregno di rabbia nei confronti di questi signori di 2K Games, di Take-Two e di Turtle Rock Studios, ovvero coloro che stanno rilasciando Evolve, che dovrebbe uscire per le varie piattaforme PC incluso il 10 febbraio 2015. Questo simpatico gioco di cui non parlo direttamente e non mi è permesso parlarne, perché dopo mille peripezie riesco a entrare nell'alfa, che in quanto alfa uno si aspetta che sia un po' rotta, e sino a qui non c'è nessun problema. Io dico, c'era qualche bug, vabbè, sti cazzi, un alfa, ho detto per curiosità. Ci stanno cose rotte a 70 euro. Esatto, quindi ho detto, nessun problema. Scarico finalmente con grande fatica, visto che i server a quanto pare erano super carichi, questa simpatica alfa di Evolve per PlayStation 4, e l'avvio e non funziona. E mi dice che i server sono pieni, oppure mi dice che il mio utente non va bene, nonostante non ce ne sia motivo, oppure mi dice che non riesce a trovare le cose giuste per il matchmaking. E leggo poco tempo dopo che è un problema dovuto al fatto che il firmware 2.0 della PlayStation 4 è uscito contemporaneamente Evolve, sbirillando tutta la baradana. Ah sì, allora, questo si è saputo in giro, sì, questa cosa. Ecco, dico, vabbè, dai, allora hanno avuto sfiga, ok, lo capisco, eccetera eccetera. Comunque rilasciano l'aggiornamento del firmware, rilasciano l'aggiornamento di Evolve. E volete sapere qual è stata la mia esperienza di Evolve? È stata vedere un cursore che gira, una barra di caricamento e basta. Quindi, per quanto tempo questo? Questo io l'ho lasciato lì una mezz'ora anche, sono anche arrivato al matchmaking, in certi casi non ha mai trovato un cazzo, ok? Cioè non c'è niente. Ma almeno girava a 60 frame la barra girava a 60 frame, bellissimo, il multiplayer asimmetrico, così innovativo, guarda. Era procedurale la barra? Era di quelle piatte. Biggio, il gioco procedurale. Dice il nome, evolve. Quindi gli devi lasciare il tempo. Esatto. Nel giro di 120.000 anni. Cioè, un gioco fantastico. Esatto, cioè, tu in mezz'ora vuoi fare quello che l'uomo è riuscito a fare. 300.000 anni. Esatto, insomma. Parte dalla rotellina che gira e arriverà un gioco in virtuale. Ci vuole un po' di tempo. Io suggerirei. Sono passate due settimane. Prima in vettoriale, non funziona niente. Non mi fa ancora entrare nel server. Mi dice, no, adesso. No, il server non va, ragazzo, non va bene. Ma quindi, insomma, non ci sei ancora riuscito a giocare sto gioco? No, non sono ancora riuscito a giocare. Cioè, coglioni girati come non so che cosa. E tutto sommato dico, sti cazzi, non l'ho pagato, è un alfa, ok. Però a questo punto non darmelo neanche il gioco, se non devi neanche farmici giocare. Non serve a niente a te, non serve a niente a me. Ma hai notizie di qualcuno che ci è riuscito? Ma sono talmente pieno di rabbia che non mi sono neanche informato. Guarda, questo è un po' come... Perché in più, saluto io che è venuto a casa e gli ho detto, ah, sai che c'ho l'alfa di Evolve, sono entrato nell'alfa, ci giochiamo PlayStation 4, ti faccio vedere una cosa in super anteprima. Ci ho fatto una figura barbina, perché prima l'hanno rimandata e poi non funzionava comunque. Quindi grazie, signori dei 2K Games, spero che il vostro gioco sia stupendo, perché dovrete davvero come dire, insistere molto per farmelo comprare, è chiaro. Ma proprio tantissimo. Invitiamo tutti gli ascoltatori a scrivere a Stefano Biggio e a raccontargli della loro esperienza su Evolve. Che sicuramente poi su tutte le altre piattaforme funziona benissimo, ma io sfiga. Però tu hai personalissime piattaforme che non funzionano. È la versione Biggio 2.0, che roba. Va bene, esatto. Va bene, ti capiamo e siamo anche sempre contenti che questa rubrica 50 sfumature del Biggio è sempre piena di aneddoti, soprattutto perché qualsiasi cosa ti scatena rabbia ultimamente, soprattutto la gente no, che ti frega i CD dai clienti particolarmente. Bene, sì, no, quello è la mia stessa stupidità che mi scatena rabbia, quindi è un altro problema. Detto questo, comunque, a questo punto io direi che possiamo andare ai saluti. Stefano, vai con i tuoi Rifi Romance. Io mi trovate su Twitter e Facebook cercando Stefano Biggio, o anche cercando Marco Gualdi, che tanto non lo trovate. Cercando Cendor Gualdi. No, no, c'è Marco Gualdi su Twitter, attenzione. Però è segnato come artista. È segnato come Gio Conno. Come artista. Esatto. Cercare, su Twitter devi cercare Gio Conno, con la J da Gio Conno. Esatto. Poi mi trovate su Rettocast, ogni tanto abbiamo registrato qualcosina che devo decidermi a far uscire, che però non è proprio andata a buon fine perché Gesù mi odia e anche un po' Twitch mi odia. E le pause tra un raid e l'altro i Destiny, no? Esatto, tendenzialmente mi trovate soprattutto su Destiny, cioè, invece 85 lì su sempre, lì sempre mi trovate. Mi trovate anche su punto di VL, ogni tanto nell'occhio, ogni tanto qui, ogni tanto là, ogni tanto su Freeplaying, e ne approfitto per salutare colui che mi faccia conoscere Doom, che mi faccia conoscere Devo the Tentacle e Indiana Jones e The Fate of Atlantis, quindi più o meno ha contribuito alla mia formazione videoludica in maniera estremamente pesante, cioè Giancarlo che adesso è padre di famiglia. Ciao Giancarlo, a cui voglio tanto bene. Salutiamolo anche lui, saluta Giancarlo. Ciao Giancarlo. Ciao Giancarlo. Ciao. Bella Giancarlo. Comunque bene, allora basta. Giuseppe, ciao. Ma mi trovate sempre sui social, partendo da Twitter con fatto, poi da lì vedete che spammo. Noi parliamo di questo, ma in realtà con quella scusa, come è stato pure per Stefano, ci facciamo entrare altre cose tra cui Destiny anche. ma il pubblico si incazza, però il per questo si incazza, chi invece è piaciuto? Beh, i puristi, diciamo, il purista dice, ma chi è quello là che hai invitato e si è messo a parlare di un gioco sparatutto? Come si permette così? Comunque ma è anche un po' quella scimmia ammaestrata. Esatto, salutiamo la signora è un gioco che ci ascolta, la scimmia, spero di no, ma c'è un po' di RPG. Comunque visto che gli RPG l'occhio del Beyond, cioè gli RPG sono quelli che spara, i camionette che sparano, no, i missili, sono i missili, sono i missili, certo. Giusto, no, è l'esperienza, ragazzi, fai esperienza. Va bene, mi piace, okay, questo, quindi l'occhio del Beholder, che è il podcast appunto di Giuseppe Saso, poi vabbè lo trovate su quasi tutti i social con Peppe Saso, giusto? Sì, in linea di massima lo dico, Giuseppe in questo momento è un po' abbacchiato perché gli ha crashato Destiny. Audacity, scusate, giustamente mi state confondendo. Marco invece lo trovate con Cendo Chrome, proceduralmente saluto tutti quanti, però sono ovviamente su Facebook come Cendo il distruggitore, sono anche su Twitter da qualche tempo con Gioconno, quindi voi cercate Gioconno e mi troverete, o me stesso. Sono anche su GPU, e tant'è che più di solito ci sono in anteprima delle fotogallerie che poi vengono messe nel sito di VL accompagnate dal solito articoletto goliardico. Proprio per una di queste gallerie mi ha scritto il simpatico Marco Paglia, che dicevo prima, e mi ha scritto riguardo la, proprio lo diciamo velocemente, la fotogallery di The Walking Dead, la seconda stagione, dice: ciao Marco, non mi ero accorto prima ma nelle foto del secondo Camminamorti su Google Plus esce il cerchio col messaggio fai clic sul viso per taggare, questo sulle varie foto e screenshot. A tal proposito volevo chiederti, puoi taggare soltanto 6 personaggi del gioco degli amici? La donna a cui ha accettato la mano alla fine dell'episodio 3, io ho fatto lo stesso, avrebbe accettato l'amicizia o di entrare nelle cerchie? È un mito, vabbè, fantastico. Salutiamo grande Marco Vaglia, grande. Salutiamo e ringraziamo. Io ho risposto what are you motherfucker. Marco, ti consiglio per una questione di evitare, insomma, beghe legali con la polizia, di non accettare l'amicizia di Clementine, perché con aspetto qualche anno che diventi maggiore. Mo vediamo la prossima stagione se è ancora minorenne. Bene, detto questo, www.dietrologiavideoludica.it è il nostro sito. Dietrologia Videoludica, trovate la pagina su Facebook e su Google Plus, chiaramente lo trovate anche su iTunes, dove potete abbonarvi gratuitamente al nostro podcast audio. Fatelo e soprattutto condividetelo. Vi ricordo che l'8-11 siamo stati a Milano per intervistare Bittanti, sempre del progetto Save Computers, ho sbagliato, ma soprattutto che il 6 dicembre io, Michele Salvezza, Carlo Sant'Agostino, Alberto Semprini saremo a Bologna per ulteriori interviste. A pranzo saremo liberi tra le interviste che facciamo la mattina e quelle del pomeriggio, quindi chi vuole, insomma, può contattarci e magari possiamo anche passare un po' di tempo insieme. Detto questo, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, che si intitolerà Fuori dal Tunnel e parlerà, insomma, di giochi un po' imbinariati, diciamo così, visti però con l'occhio di un non videogiocatore, quindi sarà una cosa un po' particolare, una puntata abbastanza interessante, sempre alla Dietrologia Videoludica. Dopo la sigla ci sono i Geronto Gamers, ciao e alla prossima puntata, ciao a tutti, ciao. Procedurali. Flawless victory. Ciao, amici. Welcome to Geronto Gamer. Sì, è vero. Oggi sono arrivati al fotorealismo totale, eppure si è perso qualcosa. È vero, Simo, guarda qua. Sembra di star a vedere una cosa vera. Milioni e milioni di poligoni, eppure, non so, ci manca l'anima. Sì, è freddo, agito. Non trasmette le sensazioni che potevano trasmettere i giochi della volta. Sì, sono d'accordo. Un vecchio Metal Gear, un Monkey Island, sono tutta un'altra storia. Ci facevano proprio il bel cuore. Sì, guarda ste frattaglie così realistiche, però sono così, non so, senza emotività. Senti, fammi una cosa, va. Leviamo sta roba e mettiamo su un bel giochetto vecchio a scuola, eh? Sì, bravo! Vai! Oh, adesso sì! Vedi? Sti quattro pixel in croce ti è scaldato proprio l'anima! Questa è arte! Che emozione! Che tonfa il cuore! Che schifo! Oh, leva sta cazzata e rimetti il gioco di prima, perché se proprio che mi devo fare due schioppi, preferisco vedere gli sbratti di sangue come si deve. I have been fed, that's a fact. I have been fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, figgins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org/PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.